Monza che non risponde e Pavia. Antonietta sta arrivando, se credeva fosse le 2:30, comunque è metropolitana. Allora, all'inizio mi scuso perché per mancanza di tempo ultimamente, se dico la verità, negli ultimi mesi riesco veramente a fatica a seguire un po' la questione. Mi sto limitando alla questione legata alla legge regionale, quindi tenere i rapporti istituzionali anche politici con alcuni gruppi consigliari rispetto a questo tema. Non riesco più a fare un po' sintesi delle varie vertenze che ci sono in ambito provinciale. Ricevo le vostre informazioni, forse mi mancano o meno, mi mancavano, adesso parlavo con Mantova, da Sondrio ogni tanto mi arrivano, forse Bergamo non ci sono e Brescia non ci sono novità, esatto. Sulle altre province, soprattutto quelle che non hanno ancora deciso, fatto mai un affidamento a livello d'ambito, bene o male ho gli aggiornamenti. Se però possiamo dedicare ciascuno di noi 5 minuti, così ci dedichiamo un'ora in totale, perché siamo più di 10 ATO, diciamo, allo stato dell'arte, almeno ci facciamo un po' il quadro della situazione. Ripeto, io sono un po' in difficoltà e ve lo dico subito rispetto a questa cosa, posso seguire l'avvertenza sulla legge, non le varie vertenze aperte sul territorio e sicuramente non la campagna di obbedienza civile sulla questione della remunerazione del capitale, sulla quale non ho nemmeno le informazioni che mi sono arrivate un po' di sponda. Per la verità non sono nemmeno andate a cercarlo da Milano, voi avete scritto in maniera molto chiara lo stato dell'arte, sia distinto tra provincia e città. Sulle altre province non so, quindi se anche facciamo un passaggio breve sulla vostra situazione rispetto alla verifica, se finora è stata computata la remunerazione del capitale, quindi sull'avvio della campagna specifica. Quindi adesso un breve cappello sulla questione, poi l'altro ieri vi ho mandato un aggiornamento sulla legge regionale e poi facciamo la discussione su questi aspetti. Allora, legge regionale, la novità appunto dell'altro ieri è che ci rimandano come audizione richiesta ormai da ottobre, quindi il giorno dopo la sentenza della Corte Costituzionale, a dopo il 20 di marzo. Stanno tirando in avanti, la Giunta ha già detto in maniera chiara che non intende mettere mano alla propria legge. I gruppi consigliari di opposizione, sia quelli che nella rappresentanza all'interno dell'ottava commissione che all'interno più geneticamente del Consiglio, aspettano, se vogliamo, anche un nostro input per presentare eventuali emendamenti in modifica, quindi come iniziativa consigliare, non come iniziativa della Giunta. E il problema è che il fronte sarebbe debole presentato dalle sole opposizioni. Io ho cercato anche di fare un tentativo sulla Lega, che già fin dal 2010 in certe cose si stava distinguendo rispetto al PDL, però si stanno un po' chiudendo a riccio, evidentemente le difficoltà politiche e anche giudiziarie in cui naviga il Consiglio regionale non gli fa fare dei passi in avanti, delle forzature, diciamo, su questo tema, al di là dell'impegno che hanno avuto su altri progetti di legge. Ecco, a questo proposito, proprio ieri, anzi per la verità anche CGL Lombardia mi aveva dato questo tipo di informazione. Vediamo se qualcuno che viene qua, se no. Sì? Sì. No, non sei in via Breda, devi essere in viale Marelli. Viale Italia, vai avanti, se non so da che parte sei uscito. Via Breda questa qui, vuoi parlarci tu, gliela spieghi tu? Tu c'è di qua? Via Breda, pronto? Se ti richiama magari... No, ma noi... Dov'ero? Stai dicendo che è appunto solo l'opposizione, che anche la Lega ti fa. Via Breda. No, in Italia siamo per la verità. Da Milano a Sesto? Okay. Poi usci, scusa. Avrei scelto su 100, guarda. Dicevo che anche CGL Lombardia su questo progetto di legge molto più generico, probabilmente che alla giunta regionale serve solo come specchietto per le lodole, per riposizionarsi. Sì, non sentiamo però. Questo PDL, questo progetto di legge, probabilmente serve solo a Formigoni per riposizionarsi rispetto alle difficoltà politiche che ha e la crisi, che cosa stai facendo in risposta alla crisi. Non so se avete avuto modo di leggere, l'ho letto con una scorsa molto veloce, generale, generico, non dice nulla, semplificazione amministrativa è molto, quindi togliere molti passaggi burocratici che riguardano le imprese e le autorizzazioni, e nello specifico sulla nostra legge 26/2003 tocca il tema dell'energia, anche in questo caso per incentivare nuovi diciamo siti di produzione energetica, in termini alternativi, idroelettrico e quant'altro, però ripeto, mi sembra molto fumo. È però un contesto sul quale si potrebbe lavorare. CGL Lombardia mi diceva, noi siamo già al tavolo, stiamo presentando degli emendamenti sull'aspetto ovviamente del mercato del lavoro, potremmo, o comunque aspettiamo che anche voi prendete una posizione rispetto a questo progetto di legge, visto che andranno a modificare la stessa legge di cui noi stiamo discutendo ormai dal referendum in avanti in termini di modifica. Quindi o aspettiamo il 20 marzo la convocazione specifica che avevamo chiesto noi, o approfittiamo di questo progetto di legge e chiediamo di essere auditi da più commissioni, per la verità non se ne occupa solo l'ottava, se ne occupa la sesta che riguarda diciamo, le attività produttive e lo sviluppo economico, oppure chiediamo un incontro politico, non istituzionale, ai gruppi consigliari, magari chiedendo a qualcuno di convocare un tavolo, portando le nostre posizioni, quindi i nostri emendamenti, in modo tale che vengano poi portati prima in commissione e poi in aula, oppure, se tutte questi passaggi un po' lenti, se volete, possiamo pensare a inscenare qualcosa a livello di manifestazione, di protesta, di visibilità rispetto alle nostre rivendicazioni. Su questo magari se discutiamo, visto che è da ripeto ottobre che si sta trascinando un po' la cosa, è giacente l'appello che avevamo chiesto con la risposta da parte di circa 500 mi sembra soggetti vari, a livello personale, a livello politico, a livello istituzionale, che hanno aderito all'appello. Non l'abbiamo ancora usato, potrebbe essere questo il momento, quindi anche rispetto agli stessi consiglieri, rispetto alla stampa, ribadire che comunque c'è una volontà che non è solo dei comitati ma è estesa anche a livello politico istituzionale da parte dei sindaci ad esempio che hanno aderito, per le modifiche di legge. Quindi il presidio o l'iniziativa che potremmo fare è anche l'occasione per lanciare l'appello. Poi non so se da Sarono dicevate che avete raccolto altrettanto parecchie adesioni sull'appello, che le mettiamo insieme ovviamente e facciamo un po' di numero da questo punto di vista. Quindi non so se su questo possiamo già discutere e capire cosa fare. Ripeto, semplicemente un passaggio già visto e rivisto, si è tratto magari di decidere a questo punto come ci atteggiamo rispetto alla cosa. Non lo so, probabilmente questa partita va comunque definita indipendentemente dallo stato dell'arte provinciale, dove mi sembra che le situazioni siano abbastanza diversificate anche rispetto all'azione che ogni singolo comitato sta portando avanti. Laddove non si è ancora deciso il modello gestionale, ma semplicemente a dicembre, al 31 dicembre, scadenza entro la quale si doveva comunque definire almeno un modello gestionale per non essere commissariati, mi sembra che ogni comitato ha sotto mano la situazione e di conseguenza si è poi manifestato nella propria scelta in maniera anche diversificata. Un territorio ha sposato, diciamo, la linea decisa a livello istituzionale, un altro territorio si dice comunque abbastanza critico. Questo rispetto alle novità che stanno venendo avanti, mi sembra, ripeto, Brescia e Bergamo non ci sono novità per quanto mi risulta. Sulle altre province, bene o male, qualcosa si sta muovendo. Molte, mi viene in mente, Varese, Como, Sondrio, Cremona, Pavia, dove mai si era fatto un affidamento a livello d'ambito. Altre situazioni, Milano Provincia e Monza hanno un aggiornamento delle ultime settimane, mi sembra, giusto? Altre sono un po' più ferme, Lecco sta decidendo, anche se ha un affidamento in essere già fatto. Milano credo non ci siano novità se non quella richiesta eventualmente dal comitato, quindi lascerei distinte le partite. La questione regionale che ci permette anche di definire un quadro entro il quale muoverci, perché avendo una definizione legislativa più chiara di quanto non ci sia oggi, in effetti è come dire che oggi non c'è una legge regionale, anzi mi leggiucchiavo qua e là alcuni pareri richiesti, consulenze legali richieste da alcuni ATO degli studi legali rispetto come interpretiamo la norma sia nazionale che regionale alla luce del referendum. La risposta era più o meno: né a livello regionale né tantomeno a livello nazionale non c'è un quadro definito chiaro, per cui il riferimento è solo e semplicemente la disciplina comunitaria. Quindi in questo quadro ognuno si muove come crede, è però vero che se noi riusciamo in Regione Lombardia a definire qualcosa di più certo, ci possiamo anche, ripeto, sui vari territori uniformare rispetto a una scelta di azione più chiara. Ripeto, questo qui dipende dalla nostra pressione che riusciamo a fare sui gruppi consigliari e come riescono a modificare la legge. In assenza della legge ci muoviamo come, ripeto, a seconda del contesto, a seconda delle definizioni che provincia per provincia ha finora fatto. Quindi tenderei a distinguere i due passaggi, anzi anche il terzo della campagna di obbedienza civile, su tre passaggi diversi, altrimenti se mettiamo tutto insieme credo che andiamo in confusione e non faremo mai sintesi delle varie questioni. Per quanto riguarda la questione regionale, a mio avviso il discorso di battere sui fronti e quindi anche eventualmente sulle altre commissioni è una cosa che si potrebbe prendere in considerazione. Si potrebbe anche ricacciare fuori dal cassetto l'appello per vedere se riesce a accogliere qualche altra firma. Ultimamente un po' sono circolati anche sui media, un po' per il discorso delle privatizzazione del governo Monti, un po' per l'appello, quindi la questione è riuscita un po' fuori, quindi a mio avviso anche ritirare fuori il discorso dell'appello, qualcuno che magari qualche tempo fa era più tiepido, rilanciamolo e facciamo il secondo giro, tanto non costa nulla, quindi è un momento un po' così e per tutto il resto secondo me facciamo un ragionamento. Anch'io purtroppo negli ultimi mesi sono stata occupata in altre cose, ma diciamo dall'altra settimana torno abile arruolata a tempo pieno libero, nel senso quello che si può fare per l'occupazione. A me pareva Roberto che proponessi nella mail che ci hai fatto girare, sì, tra gli emendamenti da portare nella legge regionale, il fatto che si proponesse l'unica gestione possibile, cioè l'ente di diritto pubblico, cioè tu dicevi inseriamo quella in modo tale che facciamo chiarezza definitiva, no? Intuitiva. È chiaro che la nostra proposta è questa, bisogna capire dall'altra parte che tipo di... No, però tu lo proponevi come iniziativa politica da prendere, è chiaro anche a me che la nostra proposta è questa, no? Perché è scritta nell'appello, tra l'altro. Scritta nell'appello. Diciamo che l'appello va tradotto poi in termini di emendamenti. Esercizio abbastanza facile, perché si tratta di cancellare l'impostazione attuale e metterci dentro le cose che abbiamo detto, togliendo riferimenti all'articolo 23 bis decreto Ronchi, togliendo i riferimenti alle patrimoniali che, ricordiamo, alla luce della sentenza non potrebbero esistere, come sono state strutturate, salvo che, e anche questa è un'interpretazione che mi sono letto da qualche parte, trasformare le patrimoniali in enti di diritto pubblico. E allora in questo modo si bypasserebbe il pronunciamento della Corte che dice: non si può affidare la proprietà di un ente demaniale a un soggetto di diritto privato, perché si configurerebbe con una vera e propria privatizzazione della proprietà del bene, cosa non possibile sulle proprietà demaniali. Quindi, anche alla luce di questa cosa, uno la può pensare articolata in: le patrimoniali vanno cancellate tout court, oppure laddove ci sono, e in alcuni casi comunque servono per mantenere la proprietà dei beni sovracomunali. L'esempio di un depuratore che non può essere legato ad un comune o ad una provincia ed è un bene nato sovracomunale, spesso creato da un consorzio ente di diritto pubblico negli anni 70-80 fino al 90 o alla addirittura articolo 35 della finanziaria del 2001 che imponeva la trasformazione dei consorzi in SPA. L'errore, la madre di tutti gli errori è stata questa. Quindi la Corte in pratica dice: voi cancellatemi il riferimento al diritto privato, poi fate voi, diciamo. Quindi, ripeto, poi noi si può chiedere o le cancelliamo oppure le trasformate. Le trasformate potrebbe anche avere il presupposto per dire: avete la necessità di creare degli enti di diritto pubblico che sono le patrimoniali, a quel punto sulle patrimoniali fate anche la gestione del servizio. Potrebbe essere questo un modello, però non credo che noi dobbiamo trovare il modello, anche perché i passaggi sono la nostra proposta di emendamento, che è essenzialmente politica, e poi c'è tutta la verifica istituzionale con le forze politiche in campo al Consiglio regionale. Non parlerei nel dettaglio degli emendamenti, parlerei della come ci atteggiamo, quale strada scegliamo, semplicemente quella dei tempi istituzionali o mettiamo in campo un'azione forte. Infatti è solo una premessa per dire che tendendo a avere molto ben presente qual è, come dire, la proposta politica di emendamento che si vuole fare, ma io sarei dell'idea che sì, c'è una debolezza pesantissima in regione, l'hai sottolineato anche tu prima, dovuta ai più svariati fattori, da quelli giudiziari a quelli più strettamente di equilibri interni, lega non lega eccetera. Probabilmente è il momento di fare una pressione molto forte, lo dico anche perché credo che a ragionare esclusivamente attraverso le opposizioni in regione sia qualche cosa che può portare un frutto, se lo porta, molto a lungo termine, e forse non trova neanche su una proposta netta come la nostra, che è quella dell'ente di diritto pubblico, il favore di tutte le forze politiche dell'opposizione. Cioè, tradotto molto in concreto, il PD su sta roba lo vedo anni luce lontano, per cui da questo punto di vista rischiamo di incartarci pesantemente su un discorso esclusivamente istituzionale. Sarebbe importante, e forse proprio le cose che ricordava lei, cioè le recenti simpatiche mosse del governo Monti con i tentativi di rinfilare dalla finestra ciò che dalla porta era stato tenuto fuori, hanno risollevato molto l'attenzione. Penso ancora a quello che è successo al Ministero dell'Ambiente l'altro ieri, abbiamo la dimostrazione che la forma di pressione è anche forte e d'impatto, non fosse altro che su una questione di pronunciamenti. Ma poi la lettera Clini l'ha già scritta all'Authority dell'Energia ed è circolata ieri in copia, l'avete vista tutti, qualche risultato concreto può in qualche situazione portarlo. Sicuramente ha il pregio di riportare all'attenzione generale un tema che se no rimane assolutamente sotto traccia. E concludo su questo pezzo. In una situazione come questa siamo a fine febbraio, dove il fattore tempo secondo me sta diventando determinante, perché tutte le decisioni prese entro il 31 dicembre da parte delle singole province e dagli uffici d'ambito e quant'altri stanno diventando operative in questi mesi. In provincia di Varese sono già al lavoro per creare la SPA in house di d'ambito e sono al lavoro dal 2 di gennaio, quando hanno cominciato a fare la prima riunione dopo che la delibera è stata presa dal Consiglio Provinciale il 20 di dicembre. Per cui, a parte che il Presidente della Provincia ha sbandierato che per fine marzo, inizio aprile, presenteranno Varese Acqua SPA, facciamo che il tempo non è nemmeno questo, perché qualche problemino ce l'hanno, perché devono chiedere al comune di Varese di ricomprarsi il 90% delle azioni di A2A, e questo è un piccolissimo ostacolo che c'è sulla questione, però al di là di questa cosa, più agiamo sul fattore tempo mentre il meccanismo non è ancora troppo avanti, e più riusciamo a, come dire, inserire il famoso granello nell'ingranaggio. Per cui un'iniziativa di respiro regionale, adesso che il tema è bello caldo, che possiamo avere comunque mobilitazione, penso a quello che insomma a Cremona sta succedendo, mi sembra sia assolutamente paradigmatico da questo punto di vista, io la metterei in campo, a sostegno poi di una proposta che è anche quella dell'emendamento di legge. Va organizzata con i tempi giusti, con i dati giusti, con la presenza che non può essere quella di quattro gatti, altrimenti è un boomerang. Certo, è più che evidente. Esatto, se la facciamo nei confronti del consiglio, se la facciamo nei confronti dell'assessore all'ambiente, se la facciamo nei confronti dei formigoni, dobbiamo deciderci quale passaggio fare per non creare buco nell'acqua, scusate il gioco di parole. Insomma, quattro gatti, l'attuazione viene messa in ridicolo, insomma. Cioè, ci vuole anche supporto, che ne so, va pensato magari anche con qualche sindaco in fascia tricolore. Nelle volte in cui si è riusciti a far modificare la legge attraverso lo strumento del referendum, diciamo, di modifica della legge, si era fatta con 80 sindaci in fascia tricolore che hanno fatto irruzione non gradite all'interno dell'aula del consiglio regionale. Ripeto, con la fascia tricolore è un po' più facile, soprattutto se sono 80, un po' l'armata Brancaleone mi fa paura, forse. Quindi pensiamola, se abbiamo, diciamo, la forza, a ragionare, assolutamente, a portare le forze, certo? Assolutamente vale la pena farci un ragionamento. Sì, io sarei d'accordo su pensare un'iniziativa costruita dai movimenti, anche perché appunto la politica è estremamente debole in questa fase, e dal punto di vista anche però della risonanza che possono avere le iniziative, se fatte dai movimenti, sono sicuramente meglio viste che l'azione di lobby che puoi fare verso forze politiche, che sono anche ferme in un panorama che devono capire anche loro, e può modificarsi molto rapidamente in tempi brevi il panorama sia nazionale che regionale. Per la fine questo porta a un certo immobilismo, e dall'altra parte c'è l'aspetto che ricordiamo che nella gestione di queste multi utility non c'è solo centrodestra, c'è ormai una gestione bipartisan. No, perché noi abbiamo praticamente qualsiasi sfarinamento politico sulle tre che gestiscono Brescia. Tra l'altro a Brescia c'è una situazione per cui da un lato è tutto fermo, ma dall'altro in teoria qualcosa dovrebbe cambiare, perché al 31 dicembre dovrebbe esserci un gestore unico, ce ne sono ancora tre più altre zone che non sono gestite. Da quanto sappiamo noi ci sono dei movimenti sotterranei che non si sa niente, ovviamente, perché vanno anche a toccare, insomma, rapporti di potere non indifferenti e strategie societarie che non hanno solo l'acqua come elemento, per cui ci sono partite abbastanza grosse dentro, però abbiamo un'estrema difficoltà ad avere informazioni su questo. L'impressione che ho io è che da noi, fra l'altro, forze come la Lega sono ancora più chiuse che da altre parti, cioè a livello di interlocuzione avevamo tentato di discutere con loro perlomeno la questione dell'esproprio dei sindaci con gli uffici d'ambito, neanche su quello hanno aperto niente. Per cui senza andare neanche a toccare la questione degli affidamenti, e su questa questione adesso noi stiamo anche cercando di capire, perché ci aspettiamo delle novità. In teoria dovrebbe essere commissariato la Brescia perché non ha dato ambito, però non ci arriva nessuna voce rispetto a questo, anche perché l'elemento probabilmente che ferma tutto è il fatto che non c'è ancora la quadra tra i gestori. Finora a Brescia, finché i gestori non risolvevano la questione, l'altro non si è mai mosso, non c'è l'ambito e altre poteri generali, non si sono mai mossi a andare a rompergli le uova nel paniere. I piani d'ambito ne sono costituiti sostanzialmente recependo le indicazioni, per cui stiamo cercando di capire come vanno le cose, sebbene non sia così facile. Ci sono dei processi più piccoli di aggregazione di alcuni comuni a gestori già esistenti, che era permesso questo già con la riga di qualche anno fa del lato, ma sul più grosso non abbiamo grosse informazioni. Dall'altro però c'è un elemento su cui dobbiamo ragionare, sulle nostre proposte che avevamo lanciato i tempi, perché noi avevamo sostanzialmente due grossi punti, no? Uno è la questione della gestione del servizio, l'altro è la questione dei rapporti del potere dei comuni negli atto, sostanzialmente. Avevamo contestato la questione dell'ufficio d'ambito, così via. Mentre su il gestore abbiamo un referendum che ci dà la forza per poter dire rispettate questo, sull'altra parte no. Dobbiamo anche capire come puntiamo le carte su questi due aspetti, no? Cioè, se ragioniamo in prima battuta più che altro sulla gestione, che è l'elemento che si porta dietro anche il risultato referendario e che direi dal punto di vista possiamo dire è esigibile perché gli italiani hanno votato questo, tenendo secondo me comunque anche l'aspetto ovviamente della riforma e così via, ma dichiarando lavorando soprattutto sull'aspetto, perché l'altro aspetto ci portava anche una serie di problemi che erano legati anche a un ginepraio in cui possiamo finire anche noi, che è quello di dire noi abbiamo sempre detto che gli altri non deve essere provinciali, devono essere per bacini idrografici, ma ho paura che se ci mettiamo ancora partite qui in questo momento, cioè sprechiamo molto tempo a definire teoricamente alcune cose che però politicamente non riusciamo a spendere. E allora forse sì, chiedere ovviamente il massimo di gestione anche pubblica partecipativa, senza magari poi definire bene l'ambito, ma ragionando più che altro su, facendo nel perno appunto su cosa deve gestire il servizio idrico, effettivamente il diritto pubblico, le speciali, i consorzi e così via. Una cosa su quella che dicevi sulla patrimoniale, perché sì. Io sono stato molto preso al lavoro, per cui ultimamente seguo un po', e non vorrei ricordarmi male, ma se non sbaglio la patrimoniale doveva essere a livello comunque di aver fatto. Sì, però questo non impedisce che a Milano ce ne siano 5, a Monza ce ne siano 7, a Pavia ce ne siano 4, mi sembra. Giusto? Sì, dopodiché anche lì una, poi alla fine. È una società di società. Ah, okay. Poi anche lì, dopo in teoria dovrebbero essere dei processi di aggregazione per arrivare all'unica patrimoniale. All'unica patrimoniale, sì. Quando ragioniamo anche su potrebbero essere utili patrimoniali in quel caso, bisogna capire però se una patrimoniale unica per ambito territoriale può svolgere quel ruolo, o se a questo punto invece chiedere invece che, perché comunque dovremmo chiedere una modifica della regionale anche su quel punto, anche se pensiamo a patrimoniali che tengono dentro i curatori di consorzio, per dire, perché comunque non rientrerebbero né proprio nella fattispecie prevista dalla legge regionale che era una patrimoniale. Assolutamente. Assolutamente. Diciamo che la questione delle patrimoniali è una specificità che è stata messa in campo solo da Regione Lombardia rispetto alle 19 altre regioni, probabilmente perché a suo tempo, già nel 2003, quando è data la 26, invece nel 2006, quando c'è stato l'obbligo di separazione, gestione e erogazione, si poteva dare un ruolo pubblico alla proprietà, quindi agli investimenti, e un ruolo di mercato alla parte dell'erogazione. E lì ci si è inventati lo strumento della patrimonializzazione e del patrimonio, questione che in altre regioni mi sembra mai posta. Quindi noi dobbiamo un po' togliere le castagne dal fuoco rispetto al fatto che poi i comuni, i sindaci obbedienti rispetto a leggi che noi gliel'abbiamo detto in tutte le salse, nel 2006 era incostituzionale la separazione gestione e erogazione, nel 2009 era incostituzionale pensare alle patrimoniali così, per due volte sono stati sconfitti, ma i sindaci, diciamo, d'ufficio hanno creato questi strumenti. Ripeto, si tratta di togliergli le castagne del fuoco. Poi c'è scritto nella legge nazionale, dalla Galli a quella regionale, ci deve essere un gestore unico per ogni ATO, e quindi di logica se c'è una patrimoniale unica per ATO, questo non impedisce a Brescia di averne tre. Perché? Perché è uno status quo che si mantiene finché va bene a tutti. Tre più altri pezzi. Quattro, sì, quattro, esatto. Quindi secondo me non è la legge scritta sulla pietra, non è mai modificabile, va anche strutturata, quindi anche la questione delle patrimoniali, cioè io non mi scaldo su questo aspetto qui e come ne usciamo, sono molto più preoccupato del a chi affidiamo la gestione che non il patrimonio in capo a chi rimane, se vogliamo. Due aspetti che dimenticavo, li volevo lasciare per dopo. Uno, perché è una sconfitta sulla questione della modifica della legge regionale, noi pensavamo, come stai dicendo tu, a due, anzi per la verità a tre passaggi. Il primo, chiamare fuori l'acqua dalla 26, quindi da tutta la logica di emendamenti di cui stiamo parlando. Il secondo, la revisione dei bacini, rifacendoci al bacino idrografico. Queste due cose le vedo un po' irrealizzabili in questo momento, visto il quadro legislativo, se vogliamo. anche l'aspetto legato alla creazione degli uffici d'ambito, ripeto, è andata un po' male la partita. Alla fine mi sembra che sia rimasta solo Milano Provincia e Sondrio che non hanno formalmente costituito l'ufficio d'ambito, non so Milano Provincia che decisioni al di là della gestione intende prendere nei prossimi mesi. Quindi ripensare anche la revisione dell'articolo 48, gli uffici d'ambito sì o no, oggi ha frittata fatta, non lo so che senso potrebbe avere. Qualcuno è riuscito a far scrivere un emendamento nello statuto o dell'ufficio d'ambito o del regolamento della conferenza dei comuni dei passaggi legati alla partecipazione, alla presenza della rappresentanza dei comitati, dei cittadini, dei lavoratori o la possibilità di presentare diciamo emendamenti, proposte, petizioni o quant'altro. È uno strumento in più, ripeto, però su quel ambito lì ci rinuncerei a questo punto di rifare la battaglia, insomma. Mi limiterei alla questione sull'affidamento della gestione. Così come un'altra cosa che ho dimenticato perché l'avrei lasciata per dopo, tu l'hai accennata, la questione della multi-utility. Domani c'è la riunione con Giovanna prima, non so chi di voi riesce a partecipare alla riunione domani, credo assolutamente importante. Oggi comunque dovremmo anche definire, Fabrizio ci serve, se vuoi portare, l'unica voce critica sull'aggregazione viene da Brescia, non tua, perché la fa la Lega immagino. Quale decisione prendere nel quadro lombardo che stiamo definendo rispetto all'ipotesi di creazione della multi-utility del nord? Ripeto che sia importante oggi porre la questione e definire una nostra posizione da portare domani su questo. Ritornerei sulla scelta del come ci atteggiamo nei confronti di Regione Lombardia. Sì. Appunto, come dire, anch'io ero d'accordo sulla questione di lasciare un po' in pace l'ufficio d'ambito, se no richiamandolo dal punto di vista partecipazione, anche perché per andare a rompere quella cosa lì ci vorremmo un forte movimento dei sindaci in campo, che diciamo, sì, noi vogliamo ritornare a contare. Se non si muovono i comuni diventa difficile per noi pretendere qualcosa per qualcun altro. Bravissimo. Io vi faccio una piccolissima segnalazione perché fatto recente di 10 giorni fa, i comuni di Saronno e Carono Pertusella in provincia di Varese insieme ai comuni della provincia di Como che stanno sotto la SPA, l'Urambiente per la gestione di depurazione da qualche parte e tutto il servizio idrico da qualche altra in questi 9 comuni, hanno deciso all'unanimità di fare causa alla provincia di Varese per via del fatto che l'Urambiente SPA si vedrebbe espropriata con la decisione di attuare la legge regionale lombarda del fatto che loro hanno una convenzione valevole e vigente fino, non ricordo se al 2020 o al 2025, come l'Urambiente SPA, e quindi hanno dato mandato i sindaci che sono soci della SPA hanno uno studio legale che sta proprio, anzi ha già inoltrato ricorso nei confronti. È per carità un ricorso della SPA, perché, come dire, a cui i comuni conferiscono il capitale contro la provincia di Varese, però, come dire, noi lo consideriamo un qualche cosa che attiene a una dinamica tra SPA, che non è il modello gestionale che chiediamo, e provincia. Sicuramente ha il significato politico però della riappropriazione territoriale di un minimo di potestà decisionale, o meglio, su questo stiamo puntando a lavorare, tant'è che abbiamo già incontrato come comitato e ci siamo messi insieme una parte dei comitati anche della provincia di Como che attengono a questi comuni, Lomazzo, Guanzaro e quant'altri, per andare a fare la nostra controproposta, che è, va bene, l'idea dell'interambito dal punto di vista territoriale ci piace. Nell'interambito però i comuni la prossima mossa che devono fare è trasformare l'Urambiente SPA in un ente di diritto pubblico. Allora se si va nella direzione politica di un'idea che è ente di diritto pubblico su interambito, potremmo essere disponibili a sostenere questo tipo di ragionamento. Siamo evidentemente all'inizio di un pezzettino, però se di conflitto o quantomeno di proposta di azione sul territorio. Vedremo com'è l'evoluzione di questa cosa. Anche noi non stiamo puntando in provincia di Varese sul dire prima i bacini idrografici, poi vediamo la questione del tipo di ente che deve gestire. Innanzitutto l'ente di diritto pubblico. Poi ragioneremo sulla questione provincia o non provincia. Di sicuro si è inserito questo elemento che ci ha portato a dire comunque, cari sindaci, se volete partire, se volete fare questa azione, perché partite anche dal ragionamento della riappropriazione territoriale, siamo disponibili a condizione che la prospettiva della vostra lotta contro la provincia di Varese e quella di Como nel momento in cui la cosa si dovrà allargare sarà quella della trasformazione in ente di diritto pubblico di questa SPA. Se sì, ben volentieri. Scusa, non ho capito una cosa. Io la ragionerei la questione sulla gestione come una campagna, però, perché non dobbiamo neanche nasconderci le difficoltà che sono legate a parte alle questioni locali, no? Alla non volontà anche della Lombardia, sia da parte della maggioranza sia da parte dei consiglieri dell'opposizione, di andare a toccare questa cosa, anche al fatto che restando fermo un ambito normativo nazionale, esistendo di fatto una legge nazionale, no? Neanche da recepire, questo è un ulteriore appiglio per chi non dice vabbè, lasciamo tutto fermo, perché è una situazione complessa quella che si trova per il referendum, perché si dice si applica la normativa europea, la normativa sono una serie di sentenze, le sentenze sono tutte legate a casi singoli, per cui è complicata anche la gestione e chi non vuole intervenire ha tutta una serie di argomenti che può portare avanti per dire beh, aspettiamo prima un quadro normativo nazionale per evitare anche cose fatte in passato che dovranno ritornare indietro, no? Per cui ragionerei su questa cosa, sull'iniziativa sicuramente da fare, ma ragionare non tanto sull'iniziativa che è la bala spacca, no? Perché non è che siamo in una situazione in cui è in discussione una cosa come è successo in passato, dobbiamo intervenire per cambiarla perché si sta muovendo. Sì. Siamo fermi, probabilmente saremo fermi per un po', bisogna cominciare a costruire una campagna che riponga all'ordine del giorno il cambiamento della normativa regionale. Certo. Con alcuni presupposti che la nostra legge regionale riconoscerà come diritto, cioè, ci sono delle cose che puoi agganciare anche il riconoscimento del diritto da parte delle risoluzioni del Parlamento europeo, cioè, abbiamo bisogno di una nuova legge regionale. La vuoi fare innovativa o aspetti praticamente, no, che si sia una riforma? Questo potrebbe essere anche per tirarlo fuori dal titolo quinto della legge 26, perché fino a quando resta là sotto è un servizio di rilevanza economica. Prende ragionare anche noi come ricostruire, esatto, come ricostruire. Mi dice giustamente andrebbe ricostruita cercando almeno di sparare un po' più alto, di puntare più alto, certo, tenendo conto che praticamente c'è, cioè, referendum ed altri sono elementi che no, portano a dire perlomeno tiralo fuori dalla 26, insomma, ecco, poi stabiliamo, vuoi aspettare un quadro, anche perché scusate, l'altra cosa che anche adesso si è stata confermata, che il servizio idrico dovrebbe restare fuori dall'articolo 4 del provvedimento, l'ultimo si chiama questo di Monti praticamente, Santa Italia, no? In cui praticamente il servizio idrico è fuori, questa è un'altra tassella a nostro favore. Se l'acqua resta fuori, a differenza dei rifiuti, a differenza dei trasporti locali, dalla ricollocazione all'interno di processi di privatizzazione o di vincoli alla gestione in house stessa, perché poi bisogna interpretare anche quello. Tutti dicono che adesso è impossibile farli in auto. Esatto, ma perché se riportano a 200.000 il valore praticamente del fatturato della cosa, sei fregato. Cioè, restano le comunità montane, le piccole cose. L'azienda speciale torna a quella di un tempo, no, era monocomunale. Sì, c'è solo un rischio. Quindi, anche se vuoi trascinare l'acqua, certo, che se stanno a molti utility, è vero che non c'è l'obbligo per l'acqua, ma chi magari ragiona a livello societario fa delle scelte tirate da altri settori, certo, che poi si trascinano per l'acqua. In fondo anche la vittoria del referendum non ci impedisce questo di essere, cioè non mi obbliga, ma non mi impedisce neanche. Per cui è vero l'azione che bisogna fare, se politicamente potrebbe essere questo inquadramento del PDL 146, visto che è una legge un po' più vasta, potrebbe almeno avere un richiamo politico nei termini in cui l'acqua viene chiamata fuori dal cappello della legge, che è l'interesse economico generale, la definizione della legge, questo va un po' verificata, perché se tu presenti un emendamento, l'acqua è fuori dalla 26, dove la metti? Hai bisogno di una norma specifica, quindi devi costruire una legge ad hoc. Non so se in Lombardia oggi c'è il quadro politico in grado di recepire, diciamo, le nostre iniziative, che poi è la legge di iniziativa popolare tradotta in chiave regionale, in assenza di un quadro nazionale che te lo definisca. Quindi un po' difficile, ma va letto anche con gli attori in campo, insomma. Antonietta. Allora, riprendevo quello che è stato detto finora, dicendo, a me non sembra tanto una buona scelta quella di tenere anche noi separati l'acqua dagli altri servizi, perché questa è, diciamo così, la scelta del governo, perché dice si privatizza tutto e poi tra parentesi magari si ricorda di dire salvo l'acqua, facendo passare il concetto che il referendum era per l'acqua, in realtà no, in realtà il referendum era per i servizi pubblici, e quindi io sono chiaramente d'accordo nel fatto che la nostra azione è incentrata sulla gestione dell'acqua, perché è quella più forte, ma a livello proprio anche così di principio, di dichiarazione di cappello dei nostri volantini, cercherei di non dimenticare questa cosa per tutti i servizi pubblici, in modo speciale per l'acqua noi vogliamo, chiediamo e proponiamo, prima cosa. Seconda cosa, la nostra azione regionale, sono d'accordo con quelli che prima dicevano, diciamo così, non limitiamola all'ambito istituzionale perché diventa un po' asfittica. La vedrei molto di più una azione regionale come clou di un'azione importante, diffusa, che parte anche dal livello provinciale. Se per esempio noi cominciamo a stampare l'appello e raccogliere le firme, diciamo così, insomma, senza bisogno di farle certificare e autenticare, però andiamo ai consigli provinciali, facciamo il presidio lì davanti quando c'è il consiglio provinciale, facciamo 3 o 4 iniziative, insomma, cioè delle cose che facciamo di solito normalmente, però le caratterizziamo come percorso che si concluderà dopo 10-15 giorni con l'iniziativa regionale in cui si presenterà, si farà la cosa davanti alla regione, cose di questo genere, riusciamo secondo me a far crescere un po' di più l'attenzione diciamo un'azione di movimento, insomma, che parte dai territori e arriva poi come conclusione, si può pensare che sia un po' più di richiamo, un po' più di attenzione. E niente, riguardo alle altre cose sono d'accordo, perché poi la cosa della partita, allora intanto che non si possa, che non ci siano le condizioni per un'azienda speciale sovracomunale, vabbè, chiaramente questa è una scusa, poi che le iniziative e le proposte debbano necessariamente avere un supporto di volontà politica, ce lo diciamo dall'inizio, cioè se lo vuoi fare la fai, e se non la vuoi fare qualsiasi incertezza diventa un ostacolo. Noi addirittura in provincia di Pavia la patrimoniale contestabilissima, fatta una società fatta di società, perché le singole aziende municipalizzate trasformate in SPA erano le socie della patrimoniale, quindi una aberrazione che però insistono nel mantenere, perché adesso invece per esempio di dire noi vogliamo mantenere il potere attraverso questa società, no, patrimoniale che avevano, una strada poteva essere trasformiamo la SRL, da noi addirittura era una SRL, la trasformiamo in azienda di diritto pubblico e così potrà continuare ad essere patrimoniale e gestore, no? Poteva essere anche dal loro punto di vista una scelta, però pur di escludere la scelta di un'azienda di diritto pubblico, adesso hanno intrapreso una strada di retrocessione dei beni conferiti che non so quando finirà, perché lì non erano ancora valutati i beni conferiti. Adesso loro hanno un avvocato, insomma, hanno fatto una direttiva di giunta in cui sono previsti 3 ipotesi per questa fase di retrocessione, e cioè dicono: per prima cosa, siccome la sentenza della Corte Costituzionale è stata pubblicata, dopo che questi passaggi erano stati definiti, non c'è bisogno di toccare niente, perché la sentenza è stata pubblicata dopo, no? Mentre invece era stata impugnata 2 anni prima, ovviamente, e noi gliel'avevamo detto ripetuto, guardate che state andando in una strada che vi sbatterà il naso contro il muro. Bene, questo è il primo passaggio. Secondo passaggio, dicono, qualora dovesse prevalere una interpretazione pedissequa della sentenza della Corte Costituzionale, allora si potrebbe retrocedere solo i conferimenti di beni passati direttamente dai comuni alla patrimoniale, mentre invece i rami d'azienda conferiti dalle ASM, perché erano stati diverse le cose, ma conferimenti direttamente dai comuni oppure rami d'azienda e anche beni passati dalle aziende municipalizzate. Allora, qualora dovesse intervenire un'interpretazione rigida, allora potremmo retrocedere solo la parte del comune, e lì però c'è già la prima grana, perché una parte dei mutui sono stati pagati dalla patrimoniale, cioè casino. In terza battuta la direttiva della giunta provinciale di Pavia dice qualora dovessero intervenire ulteriori norme di legge più stringenti e vincolanti, allora dovremmo deciderci praticamente a retrocedere anche i rami d'azienda delle ex municipalizzate. Ma questo per dire, tutto questo casino lo stanno seguendo pur di non costituire, di non trasformare la vecchia patrimoniale in azienda pubblica. Quindi la vecchia patrimoniale, con le retrocessioni che saranno costretti a fare, la porteranno, diciamo così, in disuso, e per la gestione ne costituiranno un'altra consortile, anzi no, la trasformano in società consortile, liberandosi del patrimonio. Società consortile di SPA. È un risotto. È un risotto, perché poi a questa società di società tu vuoi conferire il servizio senza gara. E allora gli dico, ma guardate che andate a sbattere ancora, perché prima o poi, presto o tardi, qualcuno vi dirà, questo non può essere un affidamento in atto, che vammi a dimostrare tu che c'è un controllo analogo in, non solo in una società dove ci sono magari dei comuni, no, una società SRL dove ci sono le SPA, e questo è il controllo analogo su cui se lo fa, gliel'abbiamo già anche scritto, anche detto. E tra qualche anno andremo a dirgli, visto, l'avevamo detto, se ci sono o ci fanno, no. E anche i pareri legali spesso sai benissimo che vengono tirati ad atti, chiedo, ma sono più scappati di no, però vogliono creare pretesto per non fare, diciamo, non l'affidamento diretto, certo, che anche avere torto loro per i prossimi anni vanno là, e poi ti trovi a dover tornare indietro, che è più difficile tornare indietro che andare là. La cosa più facile è privatizzare lo è troppo complicato mantenere in casa, cioè per l'assurdo di ginepraio anche di sentenze europee che hai, di leggi nazionali che non ci sono, di leggi regionali che ti canalano, è più facile privatizzare, tu fai una gara europea, se non hai ricorsi tu hai il tuo gestore, se l'hai fatta direttamente a casa tua qualcuno dall'esterno potrebbe venire a farti ricorso a qualsiasi momento perché hai sbagliato il cavillo al riferimento di legge. Il problema è che non ho, che avendo la mista come forma principale, le miste sono quelle più, con più quesiti giuridici in questa fase, cioè l'affidamento a una società mista quotata in borsa, perché tutte le normative che comprevano la quotazione in borsa la gara per una parte, per la quota del servizio, sono state cancellate dal referendum, per cui lì uno rischia un po' se fa una cosa del genere, mentre per l'in-house bene o male può pensare come farlo. Mentre per la gara può pensare come farlo, lì affidamenti a miste sono più un azzardo in questo caso. Però tu dici mista a 2A, non mista esatto. Cremona. Mista Cremona la fa con la gara. Lista a 2A la fa con la borsa. Sto passando in quella un po' più grossa. Adesso ti fa per forza con gara. Eh sì, se la crei ex novo oggi devi fare la gara. Brescia si trascina da quando ASM era una municipalizzata. Infatti bisogna distinguere tra gli affidamenti in essere che vanno fino a scadenza. Anche in Lombardia. Noi possiamo parlare per gli affidamenti ancora da fare o da formalizzare, o per quegli atti che ancora non hanno né fatto il piano di investimento né probabilmente identificato le modalità, no? Tipo il vostro, ovviamente. Per questo lo scenario della Lombardia va separato in queste cose. Cioè non è che puoi andare a impugnare chi ha già affidato, che purtroppo l'ha già affidato, c'è anche voi. Grazie al gestore unico perché scherzano. Vabbè, certo, questa è un'altra cosa della legge regionale che possiamo tenere presente, che da noi in questo momento tutte le altre cose fuori, ma il gestore unico resta. Questo è competenza regionale, come hai detto tu, e l'altra la revisione degli ATO l'hanno fatta, no? Cioè nel senso delle province sono le competenze. Qualunque sia le sorti della provincia la competenza di resta. Volevo dirti una cosa, non ho tutte le domande, che proponevi tu di sostanzialmente l'appello a farlo diventare una cosa firme pubblica? Sì. Però vuol dire che ci impegniamo a raccogliere un certo. Decidiamo quando e come farlo, perché se inceniamo la nostra manifestazione per il 20 di maggio, visti i tempi, questi ci convocano per il 19, stiamo facendo altrettanto. Se vogliamo fare una raccolta firme su quello ci vogliono anche i tempi, perché devi anche avere, perché neanche, so, 300 associazioni possono essere un bel numero, no? Se invece è un appello dove tu vuoi portare anche i cittadini, devi fare un lavoro anche lì di qualche mese per, certo, su tutti i territori, per mettere assieme le firme che facciano sì che questa sia una cosa. Può anche ragionare su un doppio livello. Cioè. La mia ipotesi non partiva dal fatto che dopo domani dobbiamo avere, mi mettevo nell'ottica di una azione che dovrà continuare, perché anche dopo. Ma anche dopo che abbiamo fatto questo incontro qui, noi la nostra azione continuerà nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Devo fare anche una cosa in concomitanza con l'anniversario del referendum. Che lì i tempi ci sono. Non potrebbe fare una cosa in concomitanza con l'anniversario del referendum, che lì un po' di tempo ce l'abbiamo. Se rischi che un po' troppo avanti giugno di consolidare certe situazioni, Cremona. Adesso non è un'alternativa, che lo step devono essere un più lungo, non è che si fa la prossima cosa e finisce qui. No, chiaro. Ragioniamo oltre il step. Questo, poi pensiamo, ad esempio, in concomitanza con l'anniversario del referendum, ci studiamo un'altra cosa, che abbiamo un po' più, abbiamo 3 mesi per prepararla e quindi ci può venire in mente una roba proprio del sistema. Aveva chiesto tra loro due, esatto. Praticamente noi abbiamo votato perché loro volevano privatizzare a tutti i costi, noi abbiamo votato perché tutti i costi privatizzarono la strada pubblica per la lista, perché in realtà non si va nulla, se ho capito bene, lo fate con la legge. Non è che noi abbiamo votato un referendum, cioè è 99% possibile. Il 99% degli italiani ha votato pensando di votare per l'acqua pubblica, in realtà ha votato perché non ci fosse l'obbligo di privatizzarla. Allora, a questo punto sarebbe il caso, almeno secondo me, di fare una bella campagna e di avvisare tutti di questa cosa, e poi di fare un censimento su Italia, per vedere tutte le province come si stanno muovendo, e a quel punto preparare una campagna proprio per l'elezione a livello nazionale, perché a questo punto se no non arriviamo da nessuna parte, perché se lo vogliono privatizzare lo fanno per legge, cioè la legge non è che lo stanno facendo di nascosto, aggirando la legge, eccetera, lo possono fare. E con Monti che fa tutto quello che sta facendo, a lei è proprio, se non lo fa, guai. Allora a questo punto questo sarebbe, secondo me, proprio stato di fare una serie di informazione, perché non è che noi possiamo fare tanto, purtroppo, fare un censimento di tutte le province, di più o meno, di tutti i comuni, vedere l'orientamento e da lì partire, cioè dove è pubblica va bene, lo diciamo, lì è pubblica e no, Napoli, so, delle magistrici sembra. Cioè non c'è più. Intanto anche le cose. Allora, andiamo a saltare, ci vediamo qui. Ma no, è così, no, anche no, no, no, no, no, ma anche perché pensa a rimanere sul quadro regionale, perché rimaniamo su, cioè, un censimento a livello regionale, su quello che si muove a livello nazionale dopo il referendum, che è un quadro sconfortante. Se ci pensiamo, ci sono delle campagne nazionali, c'è la campagna obbedienza civile sul secondo quesito e c'è tutta l'azione verso il governo Monti che prevede soprattutto l'informazione ai cittadini, quindi queste cose ci sono già sul quadro nazionale. Qui ragionerei sulla specificità lombarda, che ripeto ha una sua legge fatta male, attaccata su tutti i fronti, che non dà nemmeno un quadro certo ai sindaci. Se io oggi fossi un sindaco avrei le idee poco chiare sul da farsi, anche perché non ho un quadro legislativo regionale che mi dà delle linee, e quindi mi affido al consulente di turno, mi affido all'esperto di turno, mi affido al gestore di turno. Questo è il problema. Quindi se non diamo uno strumento chiaro a noi con la nostra linea politica, e poi anche agli attori sul territorio, i consiglieri provinciali che devono decidere, i sindaci che devono decidere, altrimenti tutta questa cosa qua, poi Cremona è l'evidenza di tutto quello che si verifica, no? La provincia fa delle forzature, i sindaci tirano il freno, però cosa succede? Che se a Cremona bisogna fare il depuratore non lo decide nessuno, quindi aspettiamo ancora 7 anni. Il problema è questo, no? Regionale, ripeto, però lo inquadriamo qua. Signora Francesca. Francesca, c'è anche quello che ha appena detto lei e la signora, quindi sono d'accordo con la signora, quindi a mantenere comunque che rimanga in visione a tutti, ancora meno votato chiaramente, il secondo quesito, quindi che non riguarda solo l'acqua ma tutti gli altri beni, quindi deve essere importante perché se no dobbiamo alla sveglia, quindi ok. Quello che diceva la Franziscana invece, ok, va bene la campagna, quindi la informazione sulla nostra Lombardia, provincia e quant'altro, e però anche per i sindaci secondo me è importante, perché ci sono dei sindaci che vabbè, ci sai sempre uno solito, Domenico Piniguero, non c'è problema neanche andargli a informare perché lo sai, va bene, ma siccome ci sono tante, ecco, ci sono le amministrative a breve in molti comuni lombardi, quindi bisognerebbe andare a far capire quanti questi sindaci di quelle coalizioni, i soldi minestroni, hanno voglia o meno di impegnarsi per l'acqua, cosa andranno a fare. Quindi anche i cittadini, quando voteranno per le amministrative, dovranno sapere chi voteranno e se colui o colei che andranno a votare si impegnerà o meno per rispettare la sovranità popolare, quindi il referendum. Quindi qui comunque andiamo a dare anche una bella sferzata ad alcune coalizioni, che non è roba da poco secondo me, cominciare a far capire che noi come popolo dell'acqua ci teniamo affinché il bene pubblico rimanga bene pubblico, dall'acqua a tutto il resto. Quindi dove sì, ci sono le elezioni, andiamo a firmare ai candidati il nostro appello. Il nostro appello, per cui ad esempio, parlo per Legnano per esempio, tanto per farne una, no? A Legnano giustamente non è che siamo tanto divisi in due, siamo divisi in uno, l'esempio che c'è il centro-destra e poi c'è il centro-sinistra che pende sempre più verso il centro-destra. E la parte di sinistra è molto verso sinistra, ma è solo come solo a sinistra. Per cui a questo punto il candidato del centro-sinistra Legnano, che è molto verso centro-destra, deve giustamente dire in situazione 2 se alla fine lui cosa farà per l'acqua. Quindi che fine farà chiaramente a Biacque, che fine farà le multiutigati, perché ora sta arrivando delle bollette che stanno cominciando a essere esagerate in questo settore. E quindi i cittadini devono sapere a Legnano quando voteranno, chi voteranno e costui cosa andrà a fare per il suolo, cosa farà per l'acqua, cosa farà per i rifiuti, cosa farà per l'energia, perché se no c'è la signora sono se ne punta a capo, cioè alla fine tra un anno siamo ancora qua a sprecare il sabato per dire le solite cose, però poi scusate alla fine siamo sempre lì. Allora cominciamo a fare secondo me in questo senso, cioè c'è la signora con un questionario o qualcosa per vedere cosa vogliono fare i sindaci. Però tieni conto, io sono d'accordo con te su tutto quello che dici, che i comuni che vanno al voto sono 127, non sono tantissimi. No, c'è Ponta, c'è Sesto. Ma si parla di quasi 5 anni, però su 9 milioni di abitanti la Lombardia sono 127 comuni. Io ho detto solo questo, è chiaramente con una serie può essere una l'occasione per fare una conferenza stampa a livello provinciale, perché in questo momento non è banchetto, non contare un cacchio, e quindi uscire lanciando delle parole d'ordine, se lo fai prima dell'appuntamento regionale, anche per rilanciare l'appuntamento regionale, altrimenti se lo fai dopo è soltanto per l'amministrativa. Anche perché i programmi sono sempre i soliti. Invece basta di capire cosa vogliono fare per i beni comuni, appunto. Perché noi abbiamo diritto, ad esempio, anche alla campagna del suolo, saliamo il paesaggio, no? Quindi dobbiamo lottare anche per questo. Quindi abbiamo messo l'acqua con tutti i servizi comuni abbinati al suolo, per cui deve cercare di dirci cosa vuole fare. A noi della pista ciclabile, francamente, cioè interessa poco, è una conseguenza di chi si comporta bene. Quello che stiamo facendo per gli altri interessi. E visto che passano per i prossimi 5 barra anni, cerchiamo di farlo prima possibile, se no tra un anno lo prossimo. In modo che c'è esperienza, per esempio, quindi quella va da via De Grasso, sappiamo cosa vuole fare, va bene, andiamolo prescato a lui perché lo sanno benissimo cosa farà. Però invece io so cosa voglio fare Centinaio, so cosa vogliono fare quegli altri di PDL e so cosa vuole fare quel poveretto di sinistra che è da solo. Quindi cerchiamo di far capire ai Santa Maria cittadini legnanesi cosa vanno a fare con 3 candidati sindaci. Sull'anno, corretto. Perché poi tra 5 anni, una volta che mangia tanto, non più niente, non si legnano, come su altri paesi. Quindi secondo me quello è importante. Signora Cremona. Signora, io noi l'adozione non l'abbiamo tenuta ancora, cioè non sappiamo quando è, cioè, no, però indicativamente è il 20 marzo. Indicativamente il 20 marzo, quindi non è che noi adesso possiamo uscire qua dicendo ok, noi per il 20 marzo facciamo la mobilitazione in concomitanza, perché magari, cioè, non abbiamo una data precisa, no? No, però non è concomitanza, il discorso è, cioè, hai preso in giro per 4 mesi, 5 mesi, ti chiediamo di stringere i tempi sui temi che ti abbiamo dato, e questo lo fai prima del 20 marzo, altrimenti passivamente aspetti il 20 marzo che ti convocano e gli metti lì sul tavolo l'appello e gli emendamenti. C'era questa un po' la cosa da allora uccidere. Diamoci comunque noi allora a questo punto una scadenza precisa prima del 20 marzo e facciamo una mobilitazione qua, perché secondo me farla, cioè per caricare i territori qualcosa si riesce a organizzare, no? Cioè al limite possiamo ancora raccogliere delle adesioni a livello di enti locali, a livello di altre associazioni, soggetti eccetera, in modo da arrivare, che ne so, decidiamo il sabato settimana, che non so come siano le settimane, il sabato precedente, che ne so, metà marzo, il primo sabato che c'è intorno a metà marzo, di fare comunque una mobilitazione, dove abbiamo questo appello, 10 marzo per esempio, quindi è vicino. È molto vicino, però se vogliamo fare una storia prima del 20 di marzo sarebbe una volta. Secondo me abbiamo le forze, cioè rischiamo di non avere le forze per farla. Cioè, non so, io posso 300 persone in 24 ore. Cioè, a Cremona in 48 ore dopo. È impossibile che riesci a tirare fuori. Non lo può venire con i sì, ho capito. Sì, ok, però le abbiamo già vissute gli altri davanti al Pirellone, cioè. Oppure facciamo un'azione congiunta che giorno tutti in ogni territorio, in ogni capoluogo di provincia, fa la mobilitazione per quella. A meno che si metta il flash mob, quindi anche se si è in 10, però questa cosa è talmente visibile che guadagna. Non lo so, possiamo fare allora a livello appunto provinciale. Quello che hanno fatto al ministero consegna che bastano 20-30 persone che ti occupano un tornello. E tu se vogliamo usare questo strumento ci contiamo, ovviamente non va neanche pubblicizzata questa iniziativa, fatta prima del 15 di marzo. Gli obiettivi sono un po' diversi, perché stia dentro un percorso. Gli obiettivi sono completamente diversi. Ma qui, fermano un tornello alla regione, nessuno li vede. Dal punto di vista della campagna non si muove nulla, nel modo più assoluto. Mi chiedono qualche cosa. Chiedono l'attenzione del ministro. Stavo parlando di strumento, non di obiettivo da... Cioè, stavamo parlando di campagna da mettere in piedi. Una campagna si sviluppa in un tempo e ha degli step che sono varie iniziative. Tu puoi decidere che uno step dopo l'altro utilizzi uno strumento piuttosto che un altro e vai avanti, no? Per cui io mi limitavo a dire quello che ci insegna, quello che è successo a Roma al Ministero è che quando hai bisogno di fare una cosa per cui sei sicuro di non avere dietro 500 persone, 1000 persone, 5000 persone, bastano i 20 che occupano il tuo. Poi possiamo anche decidere di non usarla mai nella campagna che noi vorremmo fare, però è uno degli strumenti che possono essere disponibili. Credo che prioritario sia definire se campagna ha da essere e se la dobbiamo fare, come si diceva per esempio, da qui al primo compleanno del referendum, che cosa da qui al primo compleanno, obiettivo per obiettivo e strumento per strumento, a seconda degli obiettivi, riteniamo che sia utile fare per portare a casa il risultato che ci stiamo dicendo, insomma, che va nell'ordine della legge regionale da modificare, anzi da rinnovare. Non so se vogliamo rilanciare la questione, la questione della legge regionale è comunque pure fondamentale, cioè noi non usciamo da questa cosa comunque, cioè la stessa costituzione degli uffici d'ambito, è vero che non possiamo rivendicare per i comuni una cosa, no? Che gli è stata tolta a tutti gli effetti a posto loro, questo è vero, però è anche vero che è stata tolta anche a noi, perché se noi non possiamo più accedere alla sofferenza dei comuni, o non sappiamo mai che cosa l'ufficio d'ambito decide se non dopo due mesi, quando finalmente dopo due mesi sul sito arriva la delibera, perché questa è la situazione. Io non so neanche se l'hanno, se addirittura le hanno pubblicate secondo le regole, cioè se io voglio anche impugnare una delibera non ho mai termini di tempo concreti per farlo, perché io non so quando si riuniscono, non so cosa decidono e non so quando me la fanno vedere questa delibera, per cui non ho veramente nessun, quindi io credo che proprio di democrazia è vero che l'ha fatto i sindaci, non l'hanno fatto innanzitutto i cittadini. Sì. Che perché teniamo conto quanti sono i sindaci che si sono opposti, perché insomma, a Bergamo i sindaci hanno votato, su 242 l'ufficio d'ambito si è alzato uno, ha letto una lettera firmata da 5. Per cui su 242 sono stati 5 a Bergamo, sì, ci sono questi. Facciamo anche questi conti. A noi tre. Lui ha maggior ragione. Da noi è un cittadino che bisogna. A noi, quei sindaci che votano contro, non ci va avanti. No, bello è quello, ma si è arrivati ad avere 60 sindaci, non era mai successo, non mai, ma proprio mai. 60 sindaci che votano contro il piano d'ambito. Abbiamo avuto 102 sindaci su 103 che hanno chiesto la revoca del piano d'ambito. L'ufficio d'ambito due giorni dopo. Si dia per riunito e ha deciso della revoca. Dei sindaci ce ne freghiamo. E 3 su 5 hanno votato di bocciare la revoca. Quindi l'ufficio del piano d'ambito rimane lì. Lì veramente si vede la differenza fra le decisioni che si riesce a prendere al chiuso, e allora succede quello che diceva Lorella, oppure quando sono in vetrina, e allora quando sono in vetrina c'è speranza che la pressione abbia effetto. Infatti è quello l'esproprio, tornare indietro su decisioni prese in 11 realtà, 11 ATO su 13, perché ripeto manca solo la provincia di Milano e Sondrio, le altre sono un po' perse, o lo chiedi modificando gli statuti e i regolamenti rispettivamente dell'ufficio d'ambito e della conferenza dei comuni, che possono essere più trasparenti, no? Rispetto alle loro azioni, cosa che da qualche parte gli emendamenti sono passati, oppure se chiedi oggi una modifica di legge sconvolgendo l'assetto, dove poi l'opposizione istituzionale è stata veramente minima, per 5 sindaci su 242. Abbiamo la conferenza dei comuni che è pubblica, tutte le volte abbiamo la CERE, che c'è un po' di centrale, cioè nello statuto e da nessuna parte, sento che ha porte chiuse, stanno a porte aperte. Abbiamo fatta un'azione per modificare il regolamento della conferenza d'ambito, della conferenza dei sindaci, dei comuni, in quel caso. Cioè, anziché ritornare al quadro regionale, che purtroppo non ti aiuta, almeno io la vedo così, cioè quello è un punto molto consolidato. Senza farci, dicevo, troppe illusioni. Però quindi a livello poi di locale, vorresti magari che non su una bella mobilitazione, perché magari inizia la singola conferenza dei comuni, magari prima o poi si convince che forse non sta agendo nella maniera più cosa. Però secondo me il nostro prossimo fine rimane quello, cioè se comunque rimane in piedi anche quel poco che è rimasto in piedi della legge regionale, perché tra una sentenza e l'altra alla fine il referendum, questa legge regionale non è in grado di regolare niente, perché non riesce più a dirti come devi gestire il servizio idrico, no? Cioè se non creare l'ufficio d'ambito e far passare le competenze alla provincia, cioè non ti dice nient'altro praticamente, no? Quindi allora a questo punto uno così non serve a niente ed è solo comunque un esproprio di democrazia a questo punto, perché fai istituire una cosa che... E poi secondo me noi che la facciamo per rilanciare l'appuntamento che avremo noi comunque come, come audizione, oppure che comunque la programmiamo, è una mobilitazione che sul livello regionale deve agire assolutamente, perché cioè, non lo so, perché comunque è lì che alla fine decidono, cioè si rimettono anche in mano la legge, ne fanno una anche peggio, cioè, non so se è possibile farne una peggio, anche secondo me le schifezze notevoli, insomma, ma quando a livello nazionale sai che c'è stata prorogata l'atto, no? Ma poi a livello nazionale il 31/12 finisce. A livello nazionale a chi passeranno le competenze? Ogni regione deve definirlo, le altre 19 regioni non hanno definito. In teoria le province, però alcune regioni stanno prendendo spunto rispetto a questa scadenza per unificare gli ATO nell'ATO unico regionale, che anche questa scelta legittima regionale è pericolosissima. Più o meno per dire a Bergamo la conferenza dei sindaci deve ratificare le decisioni dell'ufficio d'arte, che non ha parlato. Sì, ma dappertutto più o meno. No, da noi prossimo ratificarle. I punti, noi sappiamo che a fine dicembre l'ufficio d'arte si è riunito, ha fatto una delibera, ha modificato la tariffa dell'acqua, c'è stato un aumento minimo, però c'è stato. Delibera che noi ancora non abbiamo visto, che non c'è nessun sito e non si sa, avevo chiesto in 50 lingue, vedremo se ce la daranno. Sono già passati 30 giorni, quella delibera lì in conferenza nei comuni non c'è stata, eppure sulla tariffa è una delle cose vincolanti, noi comuni su quello devono dare un parere obbligatorio, se tu fai una modifica della tariffa, ma prima entro 30 giorni devi convocare la conferenza dei comuni per farla approvare o bocciare. A meno che non sia in linea con il piano d'ambito. Sei in linea col piano d'ambito? Sei in linea col piano d'ambito? Un anno fa la tariffa 2011 era stata approvata, si è applicata questa. Sì, ma era una tariffa. L'adeguamento. La tariffa o l'adeguamento? Se c'è il piano tariffario previsto è in linea col piano tariffario. Ma il fatto che non ce la diano mi fa tanto pensare. Se non c'è pubblico, non sono nella stessa condizione io, perché piano d'ambito ce l'avevo col vecchio atto, non è cambiato molto. Vabbè, comunque, anche questo è stato un punto, i piani di ambito dovrebbero anche aggiornarli, il nostro era del 2008, è rimasto quello, non l'hanno mai aggiornato, anche di non avesse scritto il supporto legislativo regionale chiaro, è che nessuno si pone a modificare un piano d'ambito che dovrebbe fare riferimento specificamente alla legge regionale per quanto riguarda le scelte gestionali, le tariffe e quant'altro, che oggi non esiste di fatto, per cui perché come sindaco devo mettere questa cosa all'ordine del giorno che dopo domani posso rivedere? Posso dire una cosa, sulla legge regionale tu dici peggio di così, sarebbe legittimo una modifica della legge regionale che dice l'unica possibilità di affidamento è la gara perché rientra nelle possibilità previste dalla disciplina europea, secondo una sentenza della Corte Costituzionale dice che è legittimo che una legge, che una regione deliberi in termini più restrittivi nell'ambito della concorrenza per la gestione dei servizi pubblici locali. Quindi la Regione Lombardia potrebbe domani modificare l'articolo 49 dicendo l'unica metodo di affidamento del servizio è la gara. O la legittima, assolutamente sì, legittima. Poi va contro lo spirito del decreto. Il problema è lo impugni come. Certo, però ripeto, sta nel campo purtroppo della legittima. È legale, dici che va solo contro lo spirito del referendum, ma anche contro la lettera del referendum. Perché se dice l'unica forma legittima è la gara, è la stessa cosa di obbligare. La disciplina comunitaria non dice che vale è il pronunciamento del popolo italiano. La disciplina comunitaria prevede le tre alternative. Tu dici. È una sentenza della Corte che è la precedente all'attuale scenario. L'attuale scenario. No, lo diceva rispetto proprio alla legge regionale 26, la 18/2006. Ma diceva, la 18/2006 restringeva ancora prima del decreto Ronchi, quindi prima del referendum, è vero, la possibilità di affidamento nella gara o mista. l'in house, l'azienda speciale erano proibite, vietate. Sì, però... La Corte su questo aspetto dà piena ragione alla Regione Lombardia dicendo è nella tua potestà restringere il campo nell'ambito di un argomento che riguarda la concorrenza nella realizzazione dei servizi pubblici locali. Punto. Questo dice la sentenza. Però se la facessero domani, non dovrebbe essere possibile. Chiaro, ma come hanno fatto le regioni contro l'articolo 4 della manovra Berlusconi? Ci sta. Non è più legittimo, esatto. Non è più possibile. Non solo, ma questo è un esercizio di stile, aspettiamo che la regione la faccia questa legge prima di decidere le quattro. Ma io da formigoni mi aspetto di tutto. La questione è, se tu dici l'unico modo è la gara, l'unica forma legittima è la gara, stai facendo quello che in sostanza quello che faceva il decreto Ronchi, cioè stai dicendo obbligo a gara, quindi in questo senso va contro la lettera, non solo contro lo spirito del referendum. L'articolo 4 della manovra Berlusconi dice questa cosa sui rifiuti e sul trasporto pubblico: finché non c'è il pronunciamento sul ricorso della regione Puglia e non mi ricordo di quale altra regione, vige l'articolo 4 della manovra Berlusconi, che dice in barba al Ronchi l'unica possibilità per la gestione dei rifiuti e del trasporto pubblico è la gara. Sì, il problema potrebbe essere un altro, in realtà è vero che va contro la lettera, perché la Corte Costituzionale l'ha detto, scopo del primo quesito è togliere tutte le restrizioni che lo Stato italiano ha posto rispetto alla normativa europea. Il problema è un referendum una volta votato, che potere limitante ha verso le leggi successive? Tre anni, principi di carattere europeo dicono che è possibile anche l'autoproduzione, no? Cioè, quindi tu puoi anche fare, se il quadro normativo è quello di tipo europeo è veramente ampio. Una regione, tra l'altro sempre il Trattato dell'Unione Europea dice che Stato e le sue componenti, regione e quindi anche i comuni, perché queste sono le componenti dello Stato, non le province, costituzionalmente, possono praticamente anche definire le modalità per i servizi, sussidiarietà per alcune cose. Cioè, siccome non è chiara la classifica anche del SIE, che non è dei servizi interessi in generale, diciamo che una regione che volesse potrebbe in questo voto legislativo fare una legge più avanzata, poi qualcuno la impugni quando verrà il nuovo quadro di legge nazionale praticamente, no? O entra in funzione il decreto e salva Italia piuttosto che altre cose. Per cui dico, io non mi tapperei le ali, no? Dicendo volendo, chiaro, poi dobbiamo fare i conti in Lombardia se abbiamo chi forte, se il CEL, soltanto rifondazione, cioè è chiaro che non la portiamo avanti. Però ecco, se la logica è di dire lavoriamo su una campagna e se gli scenari ce lo permettono, e secondo me fino al 31 dicembre questo margine può esserci, ce l'abbiamo, uno può rimettere anche in discussione gli altri. Cioè, è vero che è stata fatta la cosa, ma se era il 31 dicembre gli atti funzionano, è un'assemblea democratica e i sindaci votano praticamente anche una cosa di tipo diverso, e poi se la vede l'ufficio d'ambito come deve dare attuazione a questo, ma se i poteri io ce l'ho, gli atti non sono sciolti, no, gli atti sono sciolti, non gli atti sono sciolti, lo so che sono sciolti, però dico, se c'è una legge nazionale anche qui si potrebbe dire alla nostra legge nazionale tu fai in questo momento una vacanza, c'è una temporanea, ragazzi, non viene mai costituito l'ufficio d'ambito, perché dove sono andate le questioni, lo so, anche perché in genere bisogna andare a vedere anche gli atti fatti dei singoli atti, ovviamente ha fatto un passaggio di differenza, adesso non lo avete detto la proroga, no, devo andare via un attimo, scusatemi, io l'ho venuto qua perché sono rimasto un po' indietro sul referendum. Mi sembra, ero venuto qui per avere un po' di chiarezza, vado via molto più confuso. Perché ho sentito parlare di tante cose diverse, ma a questo punto qual è la nostra posizione come comitato referendario dell'acqua? Cosa vogliamo? Punto. Non possiamo mettere una proposta di legge di iniziativa popolare, raccogliere le firme e portare e dire quello che vogliamo noi. Perché fanno le multiutili, si spezzettano, smettono, fanno, intanto mentre loro sono lì seduti e soci a decidere, ci portano via quel poco che c'è, quando saremo segni non ci sarà più niente da prendere. mentre noi chiacchieriamo del nulla, perché questo è. Facciamo una prima, come regione Lombardia, che posizione abbiamo? Ha portato 27 milioni, ne abbiamo il seguito, non è solo 7, ma ci sono questo. Secondo me bisogna copiare da Roma. Allora, a proposito di legge, il Comitato Nazionale, la Federazione del Comitato, secondo me ci vuole una mobilitazione regionale, però per farla è vero che il presidio rischia di andare un po' o comunque di essere fatto in ritardo. Io farei questa proposta, un flash mob con poche persone, magari una settimana prima dell'incontro in regione del comitato con il consiglio regionale, un bel mail bombing che ci sta sempre di me. E poi il giorno del consiglio impegniamoci tutti e si fa il presidio sotto. Cioè, intanto che i referenti sono dentro a parlare in consiglio, sotto il presidio. Io per capire, quindi il giorno dell'audizione. L'audizione in commissione. Il giorno dell'audizione in commissione e si fa il presidio. Cioè, che chi va a parlare comunque ha fuori un tanto che lo sostiene. Perché purtroppo Cremona noi abbiamo visto che solo con questa pressione il PD, ad esempio, si è schierato completamente a favore della Repubblica. Però non è poco che il PD si schieri, l'UDC si è schierato, la Lega si è rotta in due, ha rischiato di cadere il consiglio provinciale perché la Lega va a votare a Crema, che è un comune grosso, e vuole i voti di chi ha votato il referendum dell'acqua, quindi la Lega è stata la pressione per quello la gente che si muore sta presa, non c'è niente a fare. Interesserà notevoli di notevoli. Quando è che c'è l'audizione il giorno esatto? 20 forse. Comunque mercoledì, prepariamoci anche queste cose 20 qua. 20 martedì, mercoledì e tu 20 è martedì però Roberto. Perché martedì è 20. No, dopo il 20, sarà il 21, sì no, non è il 20, è sempre mercoledì. Dopo il 20 per cui sarà il 21 esatto dal 20 è una delle azioni da lo puoi ripetere Fabrizio sarà un comunicato sul fatto che ci hanno inviato dopo il 21 e sì che l'aveva chiesto Ma c'è l'appello, E comunque si agisce sui due tavoli, cioè quello dell'audizione nella commissione, quella prevista per il 21, ma quell'altro tavolo. Poi capire il gruppo, dicevi, no? Quello che accennavi tu, dove c'era... Si tratta di sdoppiare anche noi, sarebbe doppia audizione con delle commissioni diverse. Se ne abbiamo la forza, si può tentare, oppure deleghiamo qualcuno che porti questo elemento. Io so che CGL Lombardia, ad esempio, ha posto all'interno, perché è una delle audizioni previste, all'interno del PDL 146, il fatto che la legge regionale 26 debba adeguarsi al referendum, quindi recepire il referendum. Però posta così molto genericamente, non ha formulato degli emendamenti, ripeto, o abbiamo mandato qualcuno di rappresentarli con una proposta che si possa inserire nel PDL 146, oppure ci andiamo noi, andarci noi vuol dire chiedere formalmente un'altra audizione e andarci un altro giorno perché è un'altra commissione. È una scelta. Cioè lì il tavolo c'è già, la legge si farà perché Formigoni ha bisogno di portare a casa questa cosa entro aprile, assolutamente, per presentarsi anche rispetto alle elezioni che sono sul territorio con una faccia nuova rispetto ai disastri che ha fatto finora. Quindi lì è molto più probabile che i nostri emendamenti vengano discussi e portati in aula. E la nostra audizione potrebbe anche non sfociare in nulla, perché se i gruppi consigliari dicono non sono interessato, non è che un giorno ci sarà la seduta in Consiglio regionale in cui si parla della modifica solo della 26. Quindi scegliamo anche questa cosa e cosa finalizzarci, insomma. Ripeto, poi il discorso è aspettiamo il 20, come lo aspettiamo il 20, inscenando qualcosa prima, coi tempi previsti, quando un sabato, un giorno in settimana, flash mob, credo che su queste cose dobbiamo un po' chiarirci. Poi, ripeto, mi preoccupo meno dei tecnicismi perché i nostri emendamenti più o meno sono già scritti nell'appello. Si tratta di tradurli poi nel linguaggio dell'articolato del 49, punto. Come li supportiamo? Questo è un po' che stiamo cercando, su cui stiamo cercando di fare sintesi adesso. Il discorso della sintesi è necessario soprattutto perché tutti dobbiamo essere consapevoli che le situazioni territoriali sono veramente molto variegate. Voi che parlate della zona di Milano non avete probabilmente la percezione di quello che noi stiamo vivendo dal di fuori, dove già da tantissimo tempo, Cremona è la storia concreta anche negli ultimi periodi, abbiamo fatto azioni mirate al territorio. Però contemporaneamente, dico, voi di Cremona, guardate che la vostra situazione è unica nel suo genere, perché il PDI, e questo lo so per certo perché sono situazioni che sono state ripetutamente portate come esempi sul nostro territorio, visto che siamo confinanti, abbiamo sfruttato dell'onda positiva che avete portato voi. Però il PDI si è schierato contro, semplicemente perché il presidente della provincia è dall'altra parte. Perché il presidente della provincia, che è un PD sostenuto dal PD, dalla parte mantovana, è certamente non attaccato dai nostri sindaci. Una cosa che mi dà l'impressione comunque sia uguale per tutti è che i nostri amministratori sono totalmente ignoranti di qualsiasi genere di materia. Che i tecnici si stanno facendo passaparola e sono i tecnici a volte, non so, pilotati da chi, che si passano le informazioni. Io tramite il discorso mail sentito chiaramente che i tecnici mantovani riprendevano quello che avevano fatto a Cremona e a Cremona contemporaneamente stavano aspettando quelli che dicevano altre situazioni. Caso strano, sembra che dalla regione ci sia qualcuno, soprattutto dei dirigenti, che sta pilotando gli uffici operativi. Siccome gli uffici operativi sono quelli che poi passano le informazioni agli amministratori, questa è una cosa da tenere presente, perché poi alla fine quando noi parliamo con gli amministratori tutti d'accordo sull'acqua pubblica, poi come la concretizzano, come la realizzano, dipende dai suggerimenti che arrivano dall'ufficio d'ambito. Dopodiché noi possiamo fare tutte le battaglie di questa terra, ma poi il presidente stesso della provincia di Mantova ha detto mi vengo ad incatenare sotto il pirellone purché qualcuno mi dica in maniera chiara che cosa vuol dire questa cosa. Allora, il fatto che ci sia un presidio sotto il pirellone a Mantova non arriva. Arriverà l'occupazione dell'occupazione, la richiesta e l'entrata nelle stanze del pirellone, perché quello è l'elemento istituzionale dove si può forzare. E l'audizione non arriverà mai, mentre arriverà qualche cosa di un pochettino più, chiamiamolo conflittuale, che tra l'altro si potrebbe fare su tavoli diversi e anche in poche persone. Però questo vorrebbe dire sul serio alzare il livello di attenzione. Sulle altre questioni, il Consiglio, se ci fosse un'entrata da parte anche di 30, 40, 80, 100 sindaci, sappiamo benissimo che è un Consiglio che non è omogeneo, che anche all'interno dei vari gruppi di partito il fatto che sia uno di Mantova piuttosto che di Sondrio hanno posizioni diametralmente opposte, quindi il Consiglio non è certamente il luogo più adatto per poter fare pressione. Non reagirete, ciascuno direbbe ah ma non è colpa mia e ciascuno vorrà difendere il proprio territorio. Io penso per esempio al consigliere mantovano del PD, che a parte che non sa assolutamente niente di acqua perché parlava di cipolle quando non lui stavamo parlando di funghi l'ultima volta quando abbiamo parlato di acqua, ed è stato un sindaco tra l'altro. Nell'operazione ha sempre sostenuto la sua impossibilità ad entrare in conflitto con la regione e in conflitto con la provincia, per cui se la provincia sceglie in un determinato modo poi rimane a metà strada, non sa che cosa deve fare quando è in regione. L'importante è avere qualcuno a cui dare la colpa se i comitati si lamentano che non viene rispettato il mandato dei cittadini con il referendum. E poi però dobbiamo essere consapevoli che tanta parte dei nostri sindaci si sono liberati della rogna dell'acqua, e loro sono molto contenti quando fanno proclami di tipo politico. Tutti si schierano a favore della scelta dei cittadini per l'acqua, bene comune, eccetera eccetera. Poi dal punto di vista concreto, sì, sono d'accordo, lo zero assoluto, d'accordo. Lì la forzatura e l'immagine a livello di regione secondo me sarebbe molto importante, di spinta anche di presenza all'interno del palazzo. Anche perché magari si potrebbe pensare il contrario, qualcuno entra, cerca di forzare, viene cacciato fuori immediatamente, portandosi dietro qualcuno con le telecamere, ecco, non vogliono nemmeno fare quello che è successo a Roma, quello che invece il ministro Pini ha voluto fare, tanto per dire. E anche in questo caso ci potrebbe essere una pressione che può accompagnare le persone che poi andranno in adozione. Forse questa operazione, sia sapendo che possono reagire sia in un modo che in un altro, può essere giocata immediatamente per dare di nuovo riscontro. Il fatto è che in tanta parte delle nostre amministrazioni io ho sentito i sindaci che dicono: ah, ma in ambito regionale ormai non ti muovete più, non esiste il comitato regionale, ciascuno si muove nei propri territori, e vi muovete, questo è ancora più grave, soltanto se avete l'appoggio di consiglieri e sindaci. È vero che abbiamo perso l'attenzione di tanta parte della gente, ci sono tante altre situazioni da pensare, però dobbiamo tenere presente che c'è di difficoltà, perché se poi ci appoggiamo solo ed esclusivamente sui sindaci o sui rappresentanti istituzionali, questo è anche perso. Ok. Tutti hanno, dobbiamo fare sintesi a un certo punto, delle decisioni. A me sembra che ci siano proposte abbastanza chiare sul cosa fare, per esempio, da qui all'audizione o poco più, al momento presunto dell'audizione. L'obiettivo almeno di medio periodo, cioè se è una campagna e dura qualche mese, giorno di... l'obiettivo è emendare la legge esistente, altra proposta uscita, facciamo una proposta di legge di iniziativa regionale che ricalchi, aggiungo io, quella nazionale, utilizziamo la legge, cioè, va letto lo statuto, se lo prevede. Diamoci un obiettivo. Sì, ma ci sono tante firme, abbiamo guardato, ma ci vogliono 50.000. Io ricordo il referendum abrogativo che se noi abbiamo la forza di poter dire che in questo momento il quadro normativo regionale è stato talmente mazzulato a destra e a sinistra che non garantisce un quadro chiaro a chi deve prendere le decisioni, e per questo andiamo a fare una battaglia che è, come dire, sui nostri principi referendari, calata dentro l'attuale normativa regionale, andandola a modificare su X, Y e Z. E a supporto di questo, nell'immediato, il lavoro della Commissione supportato dal flash mob. E in questi mesi, sui territori, la firma dell'appello regionale, non lo so, decidiamo quali iniziative, ma sapendo che c'è anche un termine a questa campagna, che alla fine di quel termine lì noi dobbiamo trarre in qualche modo le fila, altrimenti perdiamo di credibilità. Oppure decidiamo di andare pezzo per pezzo, diciamo, adesso c'è questa audizione, lavoriamo sull'audizione, poi vedremo cosa succede. Dobbiamo decidere questa roba qui, secondo me. Secondo me è più dignitoso pensare a una campagna. Il limite della campagna è che dobbiamo trovare delle iniziative unificanti, appunto, no, a livello regionale, mentre sui territori, che sono molto diversi tra di loro, ognuno va avanti, sapendo che è dentro un quadro condiviso, a portare le proprie iniziative, che saranno a Cremona, dove hanno ancora l'incombenza comunque del privato tout court, cioè del misto col privato dentro, a tirare intanto via quel pezzo lì. A Varese, dove già hanno proposto l'in-house, siamo subito a dire faremo 4 serate nelle principali città tra marzo e aprile, l'azienda di diritto pubblico, la società di diritto, l'ente di diritto pubblico è l'alternativa a quella roba che invece ancora snatura l'esito referendario. Però, come dire, ognuno dentro il proprio territorio, ma sapendo che l'orizzonte finale è comunque quello dell'ente di diritto pubblico per la gestione. E lascerei in secondo piano una questione territoriale sugli ambiti perché confonde. Cioè, ha ragione Fabrizio, in questo momento dobbiamo puntare a ente di diritto pubblico, punto. Cioè questo è il vero mandato referendario. Però, come dire, dovremmo avere una funzione di coordinamento più forte tra di noi, cioè che il coordinamento regionale sia coordinamento vero, altrimenti il rischio è un po' lo sfilacciamento, nel senso che o hai la voglia di andarti a vedere tutte le email che man mano arrivano e ti ricostruisci tu un quadro, che però è una visione tua parziale filtrata dalla tua, come dire, capacità di lettura di quelle cose, oppure cerchiamo di fare in modo che ognuno abbia lo strumento per leggere nella direzione comune che oggi dovremmo darci il pezzo che sta succedendo a Brescia di cui ci informa il referente di Brescia, il pezzo di cui ci informa il referente di Cremona, di Mantova e così via. Altrimenti rischiamo di ripiombare dopo la riunione di oggi ancora nella dinamica esclusivamente territoriale e l'iniziativa anche di respiro regionale diventa un una tantum che è totalmente scollegata. Invece noi, io credo che sui territori dobbiamo essere molto rinforzati da quello che avviene in regione. Noi l'abbiamo fatto provando su una piccola realtà in provincia di Varese, piccola, è la quarta città della provincia, che è Saronno. Abbiamo raccolto le firme dell'appello regionale tra i cittadini in parallelo a una campagna per la richiesta, ci servivano 300 firme, di un consiglio comunale aperto per parlare del futuro della gestione dell'acqua pubblica nella città e nel comprensorio. Ci sono state 400 firme sull'appello regionale a fronte delle 311, perché c'erano anche persone di fuori Saronno che non potevano chiedere ma erano lì nel territorio a raccogliere. E l'appello regionale, caspita, la gente, come dire, immediatamente coglieva, eh sì, è vero, però io ho votato quella roba lì e questo appello qui dice esattamente che bisogna fare quello e che non lo stanno facendo. Cioè era una forza veramente importante per riportare all'attenzione delle persone, tant'è che poi ti dicevano, sì, firmo subito anche la richiesta di un consiglio comunale perché voglio che almeno il mio sindaco mi dica che cavolo vuole fare in ottemperanza o meno all'esito referendario. Allora, se questa roba qui, cioè se l'appello è per esempio una cosa che possiamo portare nei singoli territori a supporto delle iniziative che già normalmente facciamo, come diceva Antonietta prima, capiamolo veramente, cioè facciamo la fase 2 che veniva proposta prima, credo da Lorenzo. Cioè, prima abbiamo raccolto soprattutto su istituzioni, associazioni, soggetti organizzati, adesso ritorniamo a coinvolgere le persone. Il limite di questa cosa è le persone ci dicono ci continuate a chiedere firme, a chiedere di andare a votare, a chiedere ma cosa portiamo a casa alla fine se nemmeno un referendum ci serve a... E allora qui deve essere forte il discorso che sulla regione, sulla legge regionale o riusciamo a cambiare delle cose oppure dobbiamo veramente inventarcene delle nuove. E quindi ragioniamo bene questa cosa su che cosa andare a chiedere in regione, perché l'orizzonte ultimo è quella lì. Cioè se per 4-5 mesi ci dobbiamo impegnare a fare un lavoro con le persone per riportare nei territori forte il tema dell'acqua, dove già non è, penso a Cremona in particolare, per ovvi motivi, dobbiamo farlo con degli strumenti chiari, ma anche con delle cose su cui poi noi possiamo ritornare ai cittadini e dire... Come comitato siamo i custodi dell'esito, vi diciamo che questa cosa qui è andata, non è andata, se non è andata dove possiamo migliorarla o meno, ma non con la frustrazione di dire sì vabbè ci abbiamo provato tanto per, se no perdiamo totalmente di quello. Ragioniamo bene sull'obiettivo politico finale che questa cosa deve avere, altrimenti ogni azione fatta dal flash mob alle firme sull'appello rischia di essere totalmente boomerang rispetto ai cittadini a cui andiamo a chiedere un'adesione. Posso fare una chiosa su questo intervento tuo, che ho fatto Roberto? Facciamo delle menti locali sugli obiettivi intermedio che ci proponiamo con questa campagna, perché non c'è l'obiettivo finale, è un cambio di mentalità, di cultura, e per quello, diciamo così, andremo avanti, quello insisto io a dire, noi andremo avanti nei prossimi anni, saremo frustrati se ci poniamo, successo, insomma, per il referendum. Dopo il referendum abbiamo portato a casa la vittoria. Allora sì che saremo frustrati. Ci dobbiamo ormai entrare in quest'ordine di idee che noi ogni giorno dobbiamo portare a casa la goccia. Con questa campagna qui porteremo a casa un'altra goccia in più. Prepariamoci, perché poi a giugno, luglio, ottobre, l'anno prossimo faremo le altre per portare a casa le altre cose. Solo per non andare a casa frustrati. Adesso volevo essere realisti così, però io non è che ci sto tanto sul referendum, non conti niente. Se andate a votare, se va bene, che ci siamo abituati anche a avere un governo che non abbiamo votato. Conta, perché se non l'avessimo fatto sarebbe per dire a Bergamo e anche presidente di Idrogeo. La tua intervento è sicuramente realistico, però io non ci so. Ma non ci siamo nessuno, va bene, ma non è che cambia, perché siamo qua, non discutiamo, se ne eravamo al centro commerciale, chiaro. Però quello che dicevo, che magari io mi ci metto per prima che non lo fa, magari dovremmo essere un po' più arrabbiati rispetto a fuori, a me come che siamo un pochino troppo bravi, troppo buoni. Poi magari non siamo troppo, anche troppo pochi probabilmente per arrabbiarsi, però siccome ci hanno sull'acqua, insomma, se si fanno le cose giuste la gente è interessata, insomma, non è che non sia un argomento che non interessa. Rosario. Poi penso anche che bisogna mettere a fuoco l'obiettivo di breve rispetto all'audizione, che cosa probabilmente l'obiettivo secondario sulla campagna. L'obiettivo breve, bisogna forse ragionarci, insomma, probabilmente bisogna chiedere alcune cose dell'attuale legge regionale che praticamente perlomeno mettiamo in quarantena. Cioè la possibilità di commissariamento è una di queste delle altre cose che mi prevede, no? Il funzionamento prima di ciò degli altri, quindi come fare alcune richieste da dire in questo momento, tanto un quadro normativo incerto. Tante la possibilità che si potrebbe fare delle cose anche in un modo diverso, se ci fosse la volontà politica, ma sappiamo che ovviamente forse qua in Lombardia non sono le precondizioni, poi speriamo, se si va in direzione anche lì in Lombardia potrebbe essere un quadro analogo, però di anticipare queste cose. No, ci sono alcune cose che dovremmo chiedere che sono funzionali all'audizione, diciamo alla scadenza a breve periodo, ad un mese. Che cosa bisogna bloccare delle leggi regionali il più possibile, vuol dire l'attuale applicazione della legge regionale. Anche tenendo quelle considerazioni che sono provocatorie, no? C'è una legge nazionale che è disegnato fino al 31 dicembre, eccetera, non abbiamo più valore praticamente alla consulta dei sindaci, cioè chiediamo la partecipazione dei cittadini, cioè, delle cose che possono ritardare praticamente quelle informazioni che le sedute siano tutte aperte, o che siano state, cioè, quelle informazioni che vanno da stanza in stanza che permettono in questo momento ovviamente. La seconda è già anticipare, noi appunto un attimo chiederemo, e questa sarà anche una cosa, se andasse a votare chiediamo alle forze politiche di dire come si pronunciano rispetto alle nostre esigenze di voler modificare il quadro di legge regionale. Il nostro è stato il primo a voler dire che l'acqua è una merce, nonostante prima ha fatto la modifica dello statuto regionale dicendo che l'acqua è un bene comune, e nello stesso articolo praticamente dei principi della legge 26 dice che l'acqua è un diritto. Allora ragazzi, mettiamoci d'accordo su questa azione di breve periodo. Secondo me l'appello va modificato, se ci fosse una forte puntualatino adesione da parte dei sindaci, noi recuperiamo quel consenso che nel passato ci ha portato tanto sindaci con noi. Se ci si fosse una serie di amministratori che dicono il quadro regionale è talmente confuso, io ho bisogno di certezza, in questa certezza ti chiedo, fermiamo le porte, per appunto state avanti i nostri processi, questo ci aiuta, no? Quindi dico, per quello che forse bisogna, è vero, troppe cose da raccogliere prima, però se non me lo ricordo il testo dell'appello nostro, insomma, mi pare che era più cioè legato appunto a cambiamenti, no, metterei in evidenza questo, no, che sta emergendo. Erano ai sindaci rallentare sia la costituzione delle vicinanze che affidamenti tramite gara o comunque che portassero i privati dentro la compagine, ai consiglieri regionali la modifica del quadro legislativo e ai cittadini un impegno, per questo era il senso dell'appello. Cioè, troviamo le modalità con cui agganciare i sindaci più gente a fargli capire che sono incavolati nei confronti della regione per questa inadempienza, diciamo, sia di direttive sia di modifica della legge regionale, perché loro devono modificare la legge regionale di fronte a due sentenze della Corte Costituzionale, a un referendum, perlomeno i riferimenti all'articolo 23 e dei patrimoniali e le altre cose, queste cose devono determinare. Cioè, si poteva fare, cioè lo potrebbero fare appunto anche attraverso il DPL, non le vogliono fare perché vogliono mantenere il quadro confuso, perché è la stessa cosa dei nazionali, ma per esatto, no, ma non solo Cremona, ma nell'incertezza del quadro legislativo intanto fai avanzare le precondizioni perché crei il momento opportuno per poi farle gare, è questo che sta avvenendo. Dall'altro, con la strozzatura finanziaria, quando anche i comuni volessero fare delle cose al momento opportuno, al 31 dicembre, non si ritrovano con una lira in tasca, ancora peggio, quindi le quote dove le devono comprare, gli investimenti dove dovranno fare, se vuoi fare anche l'azienda poi speciale, praticamente l'ambito monocomunale o praticamente. Quindi il vuoto e l'assenza lì è gioca a loro favore. Perché dopo il 31 dicembre praticamente sicuramente sarà sicuramente più impossibile. Per cui vanno dati due obiettivi. Di breve, che cosa appunto un attimo dico di questa legge non funziona, bisogna appunto un attimo tentare di bloccare perché non funziona rispetto a noi. Secondo, praticamente di dire noi vogliamo che si metta a mano, io contiamo alto, come dicevo prima, tiriamo fuori il servizio idrico dalla legge punto 26, dell'articolo 5. Cioè, facciamo delle richieste anche un po' un attimo, no? Vediamo insomma un attimo, dico, cioè, da lì allora introduci le modalità anche di tipo diverso, mettendo mano a tutto quanto e dicendo non vogliamo che sia una legge che rispecchi praticamente quella di carattere nazionale, che abbia questi due o tre primi principi, perché? Perché è dichiarato che l'acqua è un diritto, perché è dichiarato un bene comune, si deve riformare questi principi e non sono una falsità quelli contenuti nello statuto o nella stessa appunto legge, cioè l'acqua deve essere gestita non dalla società per azioni, appunto fino a che c'è la partecipazione è un elemento importante, insomma, che magari ci possiamo giocare anche dopo, se per caso si va alle elezioni in regione, praticamente anche come una piattaforma già, diciamo appunto un attimo, da giugno in poi, no? Tenendo presente che anche noi non può andare oltre giugno, perché poi finito praticamente le vacanze estive, al 31 dicembre, secondo me, gli atto anche in tutte le altre parti dell'Italia saniranno. Qui da noi praticamente dove ancora hanno un potere, ad esempio Milano ancora l'atto si potrebbe convocare, la provincia di Milano convocare, più difficile anche come dicevo l'hanno fatta, anche in qualche altro anno. Sì, però allo sfondo di semi sono due anni, dove possiamo ancora di più guadagnare qualche posizione rispetto, no, ad un avanzamento rispetto all'ente di diritto, piuttosto che praticamente, oppure non so, dico anche su Bambiti, non è che li puoi fare, cioè se praticamente la legge regionale non li prevede più, no? Cioè, quindi, cioè tutte queste altre cose dobbiamo tenere più porte aperte anche sulla discussione degli ambiti, perché io dicevo non la metterei da parte, no? Quella di dire. Cioè, per dire, vabbè, non avete votato, no, cioè, c'è ancora spazio, c'è un quadro nazionale, aspetta, capiamo praticamente che cosa anche una legge regionale, una legge nazionale probabilmente potrà dirci, insomma, ecco, rispetto a un rispetto, se facesse una legge, se danno diciamo degli indirizzi. Per cui bisogna un attimo effettivamente lavorarci bene, appunto, quindi in questo senso vanno differenziati gli obiettivi, di breve, richieste politiche di breve e di medio periodo. E c'è un aspetto però sulla questione legata a questo. Noi riusciamo a dire tenete fermi dove non ci sono, perché il problema è dire ritornate indietro, aspettate il 31 dove c'erano fatti, no, con passaggi di proprietà personale che sono stati fatti. Abbiamo una proposta che diciamo questa è la nostra proposta, al di là del 31 no, e allora te la giochi. Se no l'unica cosa che puoi dire è a Milano sono due fermate per minuto, certo. Beh, ma anche gli altri praticamente come stai rifacendo, no, la riforma del si sono sciolti formalmente da noi, le proprietà che avevano dato di Brescia, edifici, il personale, il stato personale, ma in convenzione sono convenzioni che hanno fatto di passare, no, allora era una convenzione, adesso è stato creato come ente, cioè un'azienda speciale che esiste, quindi non è solo la convenzione tra come c'era prima che l'assemblea dei sindaci rispetto sono dipendente di un'azienda speciale, che vuol dire che dovresti fare tutta un'altra trattativa per rispostarli. Scusa, ma se sopprimono alcune province cosa faranno? Però parlando ad oggi i consiglieri provinciali, ad esempio a Como, si doveva andare alle elezioni, questo va in funzione adesso, va bene se noi diciamo non si sa nulla, però diventa complicato farlo temporaneamente, cioè se noi avanziamo una proposta definitiva nulla ci impedisce di chiedere chiudiamo gli uffici d'ambito e facciamo un'altra cosa, certo. Diventa più complicato dire ma intanto richiudi l'ufficio d'ambito fino al 31 vediamo, mantieni l'assemblea anziché la consulta dei comuni, la conferenza dei comuni, mantieni l'assemblea appunto un attimo appunto dei, che lì anche del lato. Cioè, da noi l'assemblea dei sindaci si è fatto sciolta e ha passato le sue competenze, cioè, lato a un certo punto ha fatto uno autosciolimento anche perché poi ha avuto tutta una serie di passaggi appunto di personale economico che implicava anche questa operazione, perché poi se c'è il dipendente e neanche nella provincia, che questo della legge dovrà essere previsto, perché se sopprimo o no adesso dovrebbe che funziona, però nei regolamenti dovrà essere previsto, perché a noi chiaramente già in commissione il presidente del consiglio provinciale disse il fatto che c'è la proroga non vuol dire che io sono obbligato a non applicare la norma, per cui me ne la regionale era quindi, vero, ma anche quella degli ATO, cioè lui ha detto no ma gli ATO quella degli ATO, infatti noi il nostro è stato il primo in Italia a essere fatto, per cui non c'è stato niente da fare, cioè, dovranno bisognerà, se, fanno questo, se con la norma nuova, capire cosa si sposta, quindi all'interno del nostro ufficio d'ambito, chi prende le decisioni, non sarà più il presidente della provincia, sarà un altro, non ci saranno più le province, però formalmente riportare indietro le qua norme. Qua non ci abbiamo, nel resto d'Italia possono tenersi di atto anche perché di fatto non c'è nessuna norma che dovrebbe fare altro. La facoltà regionale, alcune regioni addirittura dicevano, ma noi abbiamo già fatto leggi regionali, non dobbiamo fare altri atti, perché abbiamo già noi deliberato prima che voi ci diceste. Certo. La questione è molto più complessa, però qua noi abbiamo un problema che è legato a una legge regionale che c'è e alcune province che hanno già fatto la quasi cosa. Tutto questo. Cioè, mentre secondo me è corretto dire Milano non l'ha fatto, aspetta un minuto, no? Certo. Non ha fatto, aspetta un minuto. Diventa più complicato dire abbiamo una proposta, diciamo no, noi vogliamo essere fatto così, e allora avanziamo quella proposta sia per Milano per Sondrio che per quelle che ci hanno già. Milano e Sondrio faranno quella cosa, gli altri ritornano indietro. Diventa complicato dire ma fino al 31 dicembre tu potevi rimettere in piedi un altro, rimettimelo in piedi per qualche mese, no, certo. E poi rimettiamo. No, chiedevo cos'è, potremmo fare una proposta che incentri tutto sul ritorno delle competenze ai comuni, cioè chiediamo che la regione, perché in quel caso lì riusciamo a rispondere anche ai casi, ma l'anno prossimo non c'è più la provincia, ma il bacino d'ambito, cioè se la competenza, intanto magari riusciamo a interessare di più i sindaci, e poi è, diciamo così, abbastanza chiaramente anche dal nostro punto di vista, perché sappiamo perché per noi le competenze devono essere vicine, insomma, ai cittadini di andare, e poi perché è risolutiva rispetto a qualsiasi contesto, qualsiasi come si dice, prospettiva. Cioè i sindaci hanno l'assemblea dei sindaci deve ritornare ad avere l'autorità che aveva nell'ambito, nell'atto, non una cosa appiccicata esterna che non ha senso come adesso. Proviamo a impostare. Bisognerebbe anche rivalorizzare i consigli comunali. Cioè io centro la perché questo gli anche prima sì. Cioè c'era quando c'era l'assemblea dei sindaci ci andavano lì senza mandato, almeno su alcune questioni i consigli comunali dovrebbero poter dare un mandato ai sindaci, cosa che adesso si è fatta tutta la facoltativa, cioè una cosa Sarolla abbiamo dovuto raccogliere 300 firme per avere un consiglio comunale aperto, ma a quello che raccolta per due anni fa, e poi è vero che i sindaci sono tolti la patata bolletta da un certo punto di vista, ma secondo me però lo accettano finché non succede qualcosa di grave, perché negli ultimi mesi quei casini che sono successi a Cremona, i sindaci che prima pensavano no, che bello adesso ci pensa il presidente della provincia sul servizio idrico, non è colpa nostra, si privatizzano, è colpa di Salini, quindi siamo tutti veniamo fuori puliti, no, da questa cosa. Quando hanno capito che loro non contavano più niente, perché di fatto la conferenza dei comuni è un organo consultivo oggi. Sì. Ti convoco se ci voglia. Uno, se dai il parere, lo dai anche a stragrande maggioranza e quegli altri si riuniscono il giorno dopo ti dicono la revoca del mio ambito mio che mi piace tanto, non me ne frega niente, spaccando persino il CDA dell'ufficio d'ambito, perché da noi la revoca è stata respinta 3 contro 5. Proprio, no? Si è anche spaccato l'ufficio d'ambito, tra l'altro, questa cosa. Quando si rendono conto che loro effettivamente non hanno più nessuna voce in capitolo, su niente, cioè se, allora addirittura hanno votato le dimissioni del presidente della conferenza dei comuni, questo ancora oggi va in giro a fare il presidente della conferenza dei comuni. Il Salini, visto che coi sindaci non ce la fa, cosa fa? Convoca le aziende. Lui ha convocato le aziende, gli ha fatto firmare un protocollo. L'azienda, hanno firmato le 7 aziende di Cremonese che gestiscano a che fare in qualche modo con il servizio idrico, hanno firmato il protocollo su un processo di unificazione delle aziende senza avere nessun mandato dai loro soci. C'è stata l'assemblea di Padagnac una settimana fa, l'ultimo presidio che abbiamo fatto è stato quello, i soci, cioè i sindaci, mentre i soci sono rifiutati di approvare quel protocollo, perché detto, te presidente non avevi nessun mandato da noi a fare quella roba lì. Però adesso i sindaci si rifiutano, cioè hanno capito che in tutte le sedi dove vanno loro devono dire di no, che per una tanto sono il risultatore, che poi dopo costruire il sì è, è un'altra roba. La riappropriazione del ruolo dei sindaci e attraverso loro dei comuni, in una fase dove da Monti in giù ti stanno togliendo qualsiasi, ma proprio ruolo tuo di rappresentante della comunità, cioè questa, i sindaci e i consigli comunali ormai sono espropriati sostanzialmente di quasi tutto. Qualche segnale, io credo che sparpagliato qua e là per la regione, sta arrivando appunto di qualcuno che in forma ancora tutta da organizzare, ma un po' di ruolo se lo vuole ripigliare, e non solo e non necessariamente perché ha le porte le amministrative e può dire ai suoi cittadini guardate che ci siamo e non siamo qui soltanto a prendere ordini da quello più in alto di turno. Questo è qualcosa che va incanalato nel ragionamento poi che è la nostra proposta, perché io sposo tantissimo, secondo me la quadra giusta l'ha proprio trovata Antonietta nel dire qualsiasi proposta facciamo deve partire dalla centralità del ruolo dei comuni. Tra l'altro l'Europa lo dice, cioè regioni e comuni, lo Stato nelle sue articolazioni locali, dobbiamo partire anche da quello come contesto giuridico. È un'altra cosa che comunque noi dovremmo, al di là della legge regionale e del che noi secondo me dobbiamo assolutamente fare, comunque un po' quello che è venuto fuori al seminario che c'è stato a Roma qualche settimana fa, della campagna di ripubblicizzazione, quindi il modello, il lavorare insomma sul modello gestionale, cioè dobbiamo comunque dargli un'alternativa. Cioè io mi rendo conto che i sindaci effettivamente tante volte mi chiedono ma allora come lo facciamo questo percorso? Cioè le aziende hanno scritto un loro protocollo assolutamente criticabile da tanti punti di vista, che secondo me se lo applicano così non ci arrivano a poter fare un'azienda in auto, perché loro arrivano ad arrivare a fare una SPA unica per tutto il territorio, quindi è ovvio che quella finalità lì non è certo la nostra finalità, però secondo me anche col percorso che loro hanno scritto su questo protocollo lì non ci possono arrivare, perché è comunque un successo che viene fuori che è impugnabile da chi vuole invece che, il territorio, che nel territorio il servizio venga messo a gara, perché creano comunque un soggetto di diritto privato che è fatto dalle società, e quindi siamo alle solite, il controllo analogo c'è o non c'è? No, ma va bene, siamo alle solite. L'unica messa in sicurezza è l'ente di diritto pubblico, perché non ha le infatti questo era un altro passaggio, questo è il problema che noi però dobbiamo porre. Prima di tutto noi adesso abbiamo una lezione sulla legge regionale che c'è, esatto. Dobbiamo dire delle cose, avevamo fatto già anche un appello su quello, no? Bisogna capire, teniamo questo appello, riraccogliamo le stesse firme sull'altro, più altro ovviamente, no? Perché c'è anche un passaggio da fare lì, cioè, tutti quelli che hanno firmato un appello, se lo parliamo ovviamente bisogna anche risentire e dire guarda che abbiamo modificato l'appello, ma per correttezza minima, no? Nel senso, poi ci stanno anche tutti, no? No, ma io pensavo di uno ad hoc, per portare soli gli enti locali dalla nostra parte, cioè può essere anche più breve, no? Sono più o meno formulato così. Non me lo ricordo, che dice, se possiamo giocarlo così va bene. Teniamo anche quello, poi abbiamo soltanto di metterci le firme dei sindaci, perché se non abbiamo la soluzione. Quando parli sono i cittadini che dicevi tu, anche questo. La cosa può essere, tenendo quell'appello come cappello, no? Noi ragioniamo su quello per il passaggio sull'audizione, vediamo altre organizzazioni, vediamo se ci stanno anche i sindaci su questa cosa, vediamo anche magari stimolare i sindaci a partire con una loro iniziativa che abbia come il centro, come centro di riappropriazione dei loro poteri, no? Perché noi come movimenti puntiamo ovviamente sulla gestione e sulla democrazia, ma vista come democrazia di noi cittadini, no? I sindaci possono molto puntare più anche sul passaggio di competenze, noi ne abbiamo detto alcune cose, ma diciamo c'è anche un aspetto. Noi puntiamo non solo che si deve fare il sindaco, ma che i cittadini del comune possano dire la loro sulla gestione del servizio. L'altro aspetto potrebbe essere quello di considerare una cosa che poi capiamo se è una legge di iniziativa popolare, che ricordiamoci sempre, ha una serie di costrittività organizzative, un impegno non indifferente, perché se devi, o potrebbe anche essere legato a questo punto a un testo che richiami più, da questo punto di vista, la nostra legge di iniziativa popolare, no? Come progetto che, perché comunque questa legge di cui andiamo a parlare, giustamente andrà Antonietta, sui servizi pubblici e lì ha un impianto anche più ampio, dove noi ribadiamo il fatto che il referendum non era solo sull'acqua. una cosa un po' più sull'acqua, no? Che va avanti dopo, che richiama più la legge nitrogeno-polare, dove tentiamo una raccolta diffusa, no? Vediamo se può essere la legge iniziativa popolare regionale, se lo permette, o poi visto anche il vegeto che hanno, potrebbe anche essere che noi raccogliamo delle firme in maniera più informale, no? Portiamo le firme raccolte, tanto dal punto di vista formale cosa cambia? Che sono obbligati a insabbiartele in una commissione, se ne possono fregare, no? Perché c'è... Posto che ho sempre il dubbio che lo statuto regionale preveda la legge di iniziativa popolare. No, ma infatti, ma non c'è il quanto... referendum abrogativo, sì, con la quantificazione esatta delle firme che sono state certificate. Può anche essere... L'iniziativa popolare perché è stata fatta alcuni anni fa, se ti ricordi, con politiche d'ambiente, sul discorso del raccolto del suolo. Però poi lì avevano anche... Sì. Però bisogna capire se anche lì hanno cambiato qualcosa, quando hanno cambiato sui referendum. Quando hanno cambiato... Cambiarono lo anche essere una cosa un po' più leggera dove c'è la raccolta firme per dimostrare la presenza dei cittadini, però su quello magari facciamo anche un passaggio con i comitati locali, perché infatti ogni anno facciamo i banchetti, no, per tirare sulle firme, cioè, bisogna capire anche sul territorio, se magari poi l'anno prossimo se avremo un'iniziativa europea, no? Cioè, poi, non dimentichiamoci comunque che abbiamo una legge di iniziativa popolare per la quale raccoglievo 1.406.000 firme che già ce l'ha, anche fare meno un milione, ma se trovassimo anche un sistema meno, appunto, cioè, più informale, nel senso, raccogliamo le firme, non devi fare i banchetti andando a cercarti chi è autentica, i moduli e così via, forse è anche più facile da quel punto di vista, tanto gli esiti più o meno poi sono gli stessi. La legge sulle gambette è nei cassetti, quindi, esatto. Risulta. Quindi se posso fare sintesi, visto che all'ordine del giorno abbiamo ancora decisioni che dobbiamo prendere, diciamo una linea per l'incontro di domani sulla multitudine del nord e capire nei territori come sta partendo la campagna di obiezione di obbedienza civile, se stiamo se serve il coordinamento regionale su questa cosa, se bene o male l'articolazione territoriale, addirittura in alcuni casi neanche provinciale, perché non c'è un piano d'ambito unico, ma bisogna rivolgersi al singolo comune se non al singolo gestore. Cerco di fare sintesi brevemente sulle cose dette sulla questione della legge regionale, vediamo se sono più o meno condivise. Sulla azione verso il Consiglio regionale, vista la difficoltà di inscenare una manifestazione che comunque avrebbe tempi di un mese per l'organizzazione, tipo l'altra volta che venne fatta sotto il palazzo del Pirellone, in previsione dell'audizione intorno al 20 marzo, dal 20 marzo in avanti, ci hanno detto continuare con la raccolta delle adesioni all'appello attraverso le forme della raccolta firme, se riusciamo a fare i banchetti, ma soprattutto del coinvolgimento dei sindaci. Credo che sia ancora attuale l'appello in tutti i termini, se non in quello in cui si chiede ai sindaci di non costituire l'ufficio d'ambito, lì è caduto in 11 realtà su 13, però lo si può mantenere vivo su Milano Provincia e su Sondrio, se non altro. Fare tra qualche giorno o settimana prossima, la successiva, un comunicato stampa che ribadisce magari queste nostre posizioni, il fatto che stiamo chiedendo da 4 mesi l'audizione non ci è stata data, nell'ottica di razionalizzare le forze rispetto a quello che è stato detto, fare l'irruzione dentro il Consiglio regionale anziché il flashmob, anziché il presidio, se razionalizziamo il giorno dell'audizione una presenza nostra sotto il palazzo, in termini di presidio, in termini di flash mob e tutte le azioni che riusciamo a fare, in modo da dare spessore all'incontro che ci sarà nello stesso momento in commissione. Nel merito delle cose che invece, quindi queste le modalità. Scusa, presenza nostra in termini nostra. Di chi? Noi, quelli che c'è un'audizione, quelli che ci hanno voluto. Dalle 5 alle 10 persone, non chiedo di più. Cioè, noi chiederemo di più. Riesce a organizzare un presidio, se no flash mob, qualsiasi cosa in relazione nel momento in cui tutto chiaro. Mi sembra di aver interpretato che la manifestazione è un po' difficile, non siamo sicuri della riuscita. È un giorno lavorativo sicuramente. Nel merito delle cose che andiamo a chiedere, quindi se vogliamo degli emendamenti, è tornato ancora in campo l'articolo 48 e non solo il 49. Mi sembra che l'idea sia lanciare il messaggio forte, quindi l'acqua fuori dalla 26, fuori dall'interesse economico in cui lo richiama la 26 stessa. Ritorna, richiamandosi magari al tema del diritto che è contenuto nello statuto regionale, richiamare l'esigenza della riperimetrazione degli atti sui bacini idrografici, un tentativo che facciamo visto che lo lanciamo forte, e la gestione affidata agli enti di diritto pubblico, l'abbiamo detto all'interno del nostro appello. Vediamo che tipo di reazione ha, e poi è vero che si andrà a un livello di mediazione, con rinunciamo ai bacini idrografici perché gli atti ormai sono consolidati, diciamo, nella loro perimetrazione provinciale o altre parti eventualmente. Ritornando indietro sugli uffici d'ambito, ripeto, fatto salvo Milano Provincia e Sondrio, dove l'azione deve essere fermare la Costituzione, anch'io ritengo molto difficile ritornare a mettere in discussione. Però, riprendendo quello che diceva giustamente Antonietta, si potrebbero invertire le cose. Allora, oggi l'ufficio d'ambito è una realtà istituzionale, è un'azienda speciale con un consiglio di amministrazione e dei dipendenti che sono i tecnici del lato. Quindi mettere in discussione questa macchina diventa veramente difficile. Il problema è che oggi cosa prevede la legge regionale per assumere le decisioni? Tutto parte dall'ufficio d'ambito che delibera, e questo diventa a tutti gli effetti atto formale. Ha bisogno però di un parere vincolante da parte della conferenza dei comuni, che come a Cremona non si capisce bene, è vincolante e obbligatorio, diciamo, obbligatorio e vincolante, a Cremona sembrerebbe obbligatorio punto di domanda, o comunque siamo fermi alla decisione presa dall'ufficio d'ambito, che è tra virgolette legge, che non è mai stata ratificata dalla conferenza dei sindaci e su cui ci sono delle forzature fino ad arrivare alle carte false che sta facendo Salini verso i sindaci. Disconoscimento dell'assemblea perché erano 60 e non 104, sono i numeri più o meno all'invento, invito le aziende perché faccio la trattativa con loro, me ne frego dei sindaci. Quindi se noi invertiamo invece le cose nella proposta, diciamo l'ufficio d'ambito ormai esiste, però la formulazione della delibera è da parte dell'assemblea dei sindaci, conferenza dei comuni così si chiama, che deve essere ratificata dall'ufficio d'ambito, è come avviene più o meno nei consigli comunali. La giunta presenta una proposta che non ha valore di delibera, la sottopone al voto del consiglio comunale e la vota, e da quel momento diventa atto formale. Quindi l'ufficio d'ambito formula una proposta generica che non ha valore di delibera, la sottopone alla conferenza dei comuni che la formalizzano e poi ritorna in approvazione formale all'ufficio d'ambito, che è, diciamo, il momento istituzionale in cui poi la delibera viene anche pubblicata all'albo pretorio con le modalità. Questo significa che poi nei singoli territori vanno formulate delle osservazioni, richieste di modifica degli statuti dell'ufficio d'ambito e della conferenza dei comuni, dove si inserisce innanzitutto, laddove non è stata fatta, la partecipazione dei cittadini, quindi le conferenze devono essere sicuramente pubbliche e ci deve essere la possibilità di mettere in approvazione delle proposte di delibera formulate dai cittadini, comitati, associazioni e quant'altro. La trasparenza nelle decisioni, ovvero, oggi avvengono solo attraverso la pubblicazione all'albo della provincia, che significa che io, per sapere che l'ufficio d'ambito è deliberato, devo andare tutti i giorni in provincia a leggermi l'albo pretorio. C'è l'albo online, però io tutti i giorni mi devo guardare. Mentre l'assemblea dei sindaci, io posso avere innanzitutto nel singolo comune la convocazione, o il sindaco amico che mi dice guarda che domani l'assemblea, tra 5 giorni in genere, l'assemblea convocata, che è quello che è avvenuto finora, perché si è riusciti a presidiare le assemblee del lato, perché qualche sindaco ci informava. Oggi quell'ufficio d'ambito non avviene perché non è una seduta pubblica, i sindaci stessi non lo sanno e ne vengono a conoscenza solo a delibera formalizzata quando gli viene chiesto il parere vincolante e obbligatorio, ma che abbiamo visto è più o meno catastrofico. Ma sono informati solo su quei temi, forse, su cui loro devono esprimere un parere. Sì, tutto il resto. Beh, diciamo che tutto il resto è un po' argomenti di, cioè, diciamo le categorie del personale, lo stipendio pagato del personale secondo me non è un tema di nostro interesse, se sono queste le altre casistiche che non, nelle quali non è previsto il parere vincolante. Il parere vincolante è sul piano d'ambito, sul modello gestionale, sul piano tariffario, più o meno le cose che interessano a noi è su questo qui, e credo che dappertutto è stato garantito il parere vincolante e obbligatorio della conferenza. Si tratta però di invertire la procedura con cui arrivare all'approvazione. Eventualmente si potrebbe inserire il fatto che il sindaco che siede alla conferenza abbia ricevuto preventivamente il mandato dal proprio consigliere comunale. Questo, se inserito nel regolamento, potrebbe essere un altro criterio di trasparenza e di allargamento della base democratica della decisione. È un tentativo. Io l'articolerei più provincia per provincia che non nella legge regionale, perché la legge regionale non prevede nemmeno queste cose, eh. Non prevede la seduta pubblica. Beh, però, o non per esempio, pubblica. La modalità di votazione sì, che secondo me è anche lì è stato fatto un obbrobrio, cioè il fatto che comunque conti quanta gente è residente nel tuo comune, cioè un comune grande vale tot, Cremona vale 72.000 e il 95% dei comuni del cremonese sono comuni di 1.000 abitanti. Sul piano d'ambito, sulle cose fondamentali, modello gestionale, così non valeva il numero della popolazione. No, era stata fatta una battaglia da parte dei sindaci nel 2000 che attribuiva il voto una testa un voto. Un sindaco di 1.000 abitanti vale quello del comune di 200.000 abitanti. Era stata fatta una battaglia che poi è stata sconfessata con questa solo, con questa cosa. Si potrebbe ritornare lì, non lo so. Nella legge regionale c'è la doppia conta, non c'è né un lato né l'altro, perché c'erano state le doppie posizioni nella norma che il numero viene verificato sia sul numero fisico dei sindaci sia sulla quota azionaria dei sindaci. Se manca una delle due maggioranze, non è valida la riunione. Per rendere un conto è la validità della riunione, e allora quella della votazione. I sindaci che sono presenti. Quella è la maggioranza. Quella è la legalità. Quello numero magari non conviene che magari mandi questa cosa avendo rivisto poi la legge, ne discutiamo. No, esatto, guardiamo bene tanto come è fatta la legge. Io credo che non lo specifichi così dettagliatamente. Poi il regolamento della conferenza dei comuni che definisce qual è la percentuale della durata e qual è... Il vincolante è la legge regionale che dice come deve essere votato. Lo so perché fa una sola legge 50. Però se fosse per essere valida l'assemblea della legge, 50% di uno è il sindaco. Ma questo è il corso. Per essere valida la deliberazione, la deliberazione deve essere vincolante. La pensa al 50% di uno dei residenti. Delle quote residenti. Su quelle delibere che sono fatte con parere popolare. Tanto è vero che la bocciatura del piano d'ambito, il problema è proprio quello, che la seduta era valida, quindi la votazione c'è stata ed era valida. Il problema è che quei 60 comuni che erano raggiungevano erano poco più di un terzo della popolazione residente. Quindi Salini dice sì, ok, l'assemblea era valida, ma per me non è vincolante, io non sono tenuto a prenderla. È l'assemblea condominiale sostanzialmente, ovviamente. Però invece prima no, sul piano d'ambito, sul modello gestionale valeva una testa un voto. Una testa un voto, dovevi avere i due terzi per far passare un piano d'ambito, dovevi avere i due terzi dei sindaci d'accordo. E sì, dovevano raggiungere sugli atti fondamentali, quindi parlo di piano d'ambito, di modello gestionale, cioè di cose nuove, insomma. E quello secondo me era una cosa molto più. Per salire un braccio, perché è un problema. Magari il tecnicismo di questa cosa ce lo riguardiamo meglio e facciamo delle proposte. Però siamo d'accordo a formulare così, sia rispetto a come ci atteggiamo in vista dell'audizione, sia nel merito degli emendamenti che ripresentiamo, sia sul 49, modello gestionale, sia sul 48, attribuzioni Dentro l'ambito della conferenza dei comuni, ribaltandoli nell'ordine, diciamo, cronologico. Una cosa più che altro, per riprendere anche quello che diciamo a livello nazionale, quando parliamo, vabbè, gli atti strutturano istanze di partecipazione, parliamo di strumenti di democrazia partecipativa, che è qualcosa di più, magari lo mettiamo intanto come indicazione verso, perché anche noi ci dobbiamo lavorare sopra così via, ma lo teniamo come principio. Mi viene da pensare un'altra sì, cosa. Il discorso è che nulla ti impedisce nella conferenza dei comuni, io avevo suggerito degli emendamenti, di scrivere anche qualcosa in cui ci sia una rappresentanza fisica senza potere di voto perché te lo cazzo. No. Su questo c'è, però anche, fisica anche alla conferenza. Deve fare un po' la discussione, no? Perché sì. Ci conviene, intanto magari lo annunciamo. Sì. Cioè, perché di fatto il centro lo fanno, gli altri lo annunciamo e basta, no? Sì, sì. Principio. Cioè, non chiediamo che sia nella legge, però lo teniamo come principio perché è anche tempo che noi ci dobbiamo lavorare sopra. Già la garanzia che in alcuni statuti è passata del fatto che una tua proposta come comitato, come associazione, debba essere obbligatoriamente messa in discussione è un passaggio democratico, perché è come se tu fossi lì fisicamente, qua non hai potere di voto. È una cosa una forma passata. La stesura ma il comitato non c'è, circolando che è possibile farlo nell'ambito della legge regionale. Se per esempio prendiamo come spunto, anche se non è esattamente quello che intendiamo, il discorso legato alla legge regionale Veneto, che sì. Prevede il comitato dei cittadini barra utenti, rifacendosi alla legge Galli. C'è anche nella legge regionale in alcuni passaggi, solo sull'associazione di consumatori. Però, però in questo caso invece sarebbe da rimodificare, magari rimodulandola, visto che c'è un'esperienza che viene dal Veneto e visto che noi potremmo riadattarlo meglio con... Tu ce l'hai solo con il Veneto. Quella del Veneto, prova, mettiamo insieme queste... La discussione poi se su decisione del Presidente la missione fisica e anche intervenire di comitati e poi se vale la pena mettere anche la votazione. Dicevamo così. Scusa Roberto, su queste cose qui che sono tutte le proposte che vanno nella direzione del ricoinvolgimento dei comuni e dei sindaci, no? Che noi porteremmo, fare un cappello all'appello regionale dove tu gli dici ti chiedo l'adesione sui termini dell'appello sapendo che noi andiamo a proporre queste cose che nel momento in cui passano sono esattamente nell'interesse di andare a ricoinvolgere te e la tua comunità che rappresenti, io credo che sia importante perché rinforza molto la richiesta di adesione all'appello da parte del singolo sindaco a cui tu vai a chiedere, o del singolo consiglio comunale a cui tu vai a chiedere questa cosa. Pensavo una lettera appello che potremmo fare, che sottoscrivano e che praticamente si aggancia praticamente dicendo. L'appello com'era e con questa introduzione che è caro sindaco. Ci troviamo quindi hai un quadro regionale, appunto, visto che è un quadro regionale in cui ti chiedi la cosa è che loro devono chiedere alla regione che praticamente hanno un quadro non chiaro di riferimento e che fino alla regione non ha fatto nulla, che vogliono rivendicare una loro soggettività, voler partecipare a questa cosa e quindi poi ci sono appunto un attimo che sottoscrivono le proposte diciamo di partecipazione nostra, no? Che poi praticamente invece, politicamente si concretizzano le tre modifiche dell'articolo 48-49 che abbiamo messo nell'appello, insomma ecco. Però ci vuole qualcosa, quello è più facile sottoscrivere anche mandarle in rete, no? Perché mi mandi quella lettera appello, uno rappresenta il Consiglio Comunale, il sindaco può firmare anche lui, non credo che ha bisogno di una delibera appunto un attimo ecco di giunta, perché una lettera appello non è una cosa particolare. Però avere un certo numero della Lombardia ci presenta in regione. Roberto, dalla sintesi che hai fatto rimane fuori quel tavolo politico. Infatti stavo chiedendo, cosa facciamo? Ci andiamo, deleghiamo qualcuno. Faccio esempio perché siamo già dalla CGL Lombardia. Il documento penso nazionale l'abbiate letto tutti di CGL nazionale, insomma, che è molto vicino al forum dei movimenti. La delega sarebbe togliere l'acqua dalla legge regionale 26 e formulare eventualmente questi emendamenti se in quel tavolo vengono accettate, magari nel nostro no. Oppure ci andiamo noi, decidiamo cosa fare. Cioè a quel tavolo penso parteciperanno anche le associazioni dei consumatori. Le associazioni singole, il contratto modello sul lago potrebbe chiedere di essere audito, così come altre realtà associative. Se più forte, perché la CGL ci avrà altre cose. Ma infatti a me l'hanno suggerito dicendo, tra le tante cose che noi chiediamo sul tema del mercato del lavoro, noi ci abbiamo provato a chiedere questa cosa, però riportatela voi. Forse però è meglio che... perché loro poi andranno, ci sarà questa, e poi però le cose importanti per loro... Formalizziamo quindi una richiesta nostra, teniamo conto che c'è anche lì, c'è l'esigenza un altro martedì da spendere in consiglio regionale. Se c'è la data su questo? No, però entro aprile lui vuole, Formigoni, approvarla in consiglio regionale, che vuol dire che le commissioni, anzi tra l'altro nella lettera del gruppo SEL che mi è stata mandata l'altro giorno, si diceva... non l'ho copiata qua tutta, mi sembra i tempi delle audizioni sono da inizio marzo alla prima metà di aprile, una cosa del genere. Sì, sentite, le audizioni già fissate per il 29 primo marzo. 29 primo marzo, 29 intendeva 29 febbraio e primo marzo, sono... quelle già fissate, probabilmente andrà dopo il primo marzo, quindi potrebbe essere, sì, che giorno della settimana è un giovedì forse, il primo marzo sarà il giovedì successivo che daranno disponibilità, quindi se dobbiamo presentare la richiesta alle commissioni, cos'è la quarta, esatto, presentiamola e andiamo con la stessa piattaforma con cui si è andato. Non necessariamente si deve fare quello lì, che no, un'altra parte, no, magari una delegazione di 4, 5, 6 di noi che riescono ad andare. Perché sappiamo che in Galizia è un altro contesto. Comunque, presentare la richiesta, okay, a Cordova, allora le proposte, assolutamente. Ok, sì. Vabbè, quindi questo lo facciamo già dai prossimi giorni, mentre tutte le informazioni che stiamo dicendo adesso sulla... statuti, regolamenti, la partecipazione, se li facciamo girare poi vediamo di articolare appunto i vari emendamenti, così come cappello anzi Roberto, se vuoi suggerire cappello o la lettera appello con cui rilanciarlo, facciamolo girare. Se non c'era altro, però prima di chiudere appunto io non lascerei cadere quella cosa che diceva Francesca riguardo al modello, perché è vero che non è una cosa, diciamo così, di immediata problematica, però io proverei a mettere in cantiere un convegno di giuristi, un'iniziativa, diciamo così, non so, di altro. No, ma non dovrebbe essere di giuristi, penso, no, lo so, dovrebbe essere di movimento. Ah, di movimento, non so come l'avete pensato, so che a parte. No, quello di giuristi abbia già fatto. Per proprio per dirimere, evidenziare le percorse per la costruzione di una azienda speciale sovracomunale. Questa cosa qui la stiamo organizzando, la stiamo per Bergamo, perché il nostro obiettivo è... l'azienda speciale. Sì, adesso stiamo scrivendo per Bergamo, allora la nostra battaglia è di pubblicizzare l'SSA. Poi il 15 di aprile a Varese, in una data che non deve finire, si può venire e poi dopo ve lo facciamo. Facciamola così, visto che il seminario nazionale è già stato fatto, fisicamente non c'ero, però ci sono gli altri, diciamo, anzi più che altro i relatori Gaggi e Montalto dovranno fornire i documenti di proseguo di quel momento seminariale. Se avete già questi momenti provinciali, ha anche più senso calata sulla realtà provinciale, perché ripeto, a Milano città probabilmente chiedere all'azienda speciale ha un senso, chiederla in realtà come Brescia, che non è l'azienda speciale ma è quella consortile, avrebbe un altro senso e impatto, per cui probabilmente l'articolazione provinciale ci può andare meglio, perché la caliamo nella realtà dov'è. Le patrimoniali a Pavia ce ne sono tot, a Monza ci sono 7, a Milano dall'altra parte non ci sono, per cui è un problema che si può o meno affrontare, direi. se facciamo tengo così... informati sì, okay. Comunque c'è il percorso nazionale che dovrebbe comunque andare avanti e sì, ma c'era un seminario a Basile. No, forno alternativo mondiale dell'acqua, un'altra cosa. Sì, fare un appello per sì, dico, adesso lei ha bene spiegato di parlare di questo. Cioè lei si è arrivato su questo, no? Non credo. No, anzi, avevo letto una battuta, qualcuno che dice nella risoluzione votata dal Parlamento europeo non si parla degli enti di diritto pubblico e del speciale, cioè a livello europeo il tema non è posto, no, è solo un tema italiano, per cui se lo mettiamo così. Sì, anche perché poi cioè, le forme societarie sono diverse, sono diverse nazione per nazione, no, infatti, la competenza è nazionale, poi, ma poi anche la definizione entro il diritto pubblico in Italia è una cosa, è fraccia un'altra, certo. Esauriamo il primo punto e ci siamo già in parte esauriti. Ok, io quindi faccio un passo indietro perché non ho le informazioni. Multi utility del Nord e campagna obbedienza civile, chi le ha? Non so se Giovanna Rosario magari di più sulla previsione dell'incontro di domani, come è stato strutturato. Poi allora, l'incontro è nato da una proposta di Emilio Molinari, fatta nella lista del coordinamento nazionale, quando diciamo, c'è stata questa accelerazione, perché della multi-utility se ne parla da un po' naturalmente, però c'è stata, lo sapete, questa accelerazione recente, no? Che poi è culminata nell'incontro alla Casa della Cultura sabato 11 febbraio, purtroppo coincideva esattamente con la nostra giornata di convegno, quindi noi non siamo potuti andare, però non solo avevamo delle persone che comunque ci hanno fatto raccontato cosa si era detto, soprattutto poi l'Associazione Democratici per Milano ha messo tutti i video sul proprio i video, le videoregistrazioni sul suo sito, quindi noi ce lo siamo guardato, insomma, quindi si può vedere tranquillamente. Allora, in relazione a questa accelerazione, Emilio ha proposto di fare una riunione delle realtà, diciamo, dei comitati, delle regioni interessate, no? Quindi c'è Savona e Genova, c'è Reggio Emilia e Parma, mi pare che vengono, e Piacenza anche. Insomma, hanno scritto un po' tutti, Torino naturalmente, Milano, appunto Brescia, eccetera. Quindi l'idea è, almeno originariamente l'idea era questa, di ritrovarsi fra comitati che sono direttamente coinvolti dal progetto. Noi sappiamo naturalmente che il progetto è solo un primo pezzo, no? Quindi poi ci saranno ulteriori coinvolgimenti, però intanto A2A e IREN hanno diciamo delle realtà precise dal punto di vista idrico, per esempio Milano non c'è, l'acqua di Milano non c'è, mentre c'è l'acqua di Brescia, una parte quella di Bergamo. Bergamo è stata, l'abbiamo riacquistata. Allora, su questo si è inserito più o meno insomma l'interesse, mi sembra di capire, adesso vedremo domani, del forum nazionale. Che, per cui immagino che verranno anche persone fuori da questo gruppo ristretto diciamo di comitati, un attimo, da questo il gruppo di comitati che avevo citato prima. Allora il luogo si tiene a Milano alle 11 presso la sede di Punto Rosso, dell'associazione Punto Rosso, che è in via Guglielmo Pepe 14 accanto al metro Porta Garibaldi. Proprio ci si va a piedi, sono 2 minuti dal metro. E quindi c'è questo incontro qua. Allora, l'idea era semplicemente confrontiamoci, cerchiamo di capire e proviamo a vedere se possiamo mettere insieme una strategia comune, che strategia o che strategie, probabilmente più di una, eccetera, o perlomeno a più livelli. Naturalmente, si tratterà allora di vedere un po' quali sono gli orientamenti. Noi sappiamo dalla stampa che il progetto non va senza problemi, per esempio in Liguria il PD è spaccato, una parte del PD è contraria, qui naturalmente noi abbiamo sentito solo Fassino. Noi abbiamo fatto allora nel frattempo una forte pressione su Pisapia perché si esprimesse, la quale forte pressione è caduta il 22, cioè l'altro ieri, perché avevamo finalmente questo appuntamento segreto con io, Emilio e Pisapia, sai, dovevamo fare tutti e tre, e Pisapia si è ammalato. Quindi Pisapia, noi siamo andati lì. No, no, però è vero che è ammalato e non è ancora ritornato fuori. Comunque, quindi noi non abbiamo potuto avere questo agognato incontro. A questo punto è venuto un suo, insomma, non so come si chiama, uno che lo, di quelli che l'aiuta, si chiama Riccardo Alberti, non so bene che funzione abbia lì dentro, e a dirci appunto che era ammalato. Per la verità aveva anche mandato un messaggio a Emilio, ma Emilio non aveva guardato il telefonino, e si è proposto, di fronte alle nostre insistenze, ha detto: vabbè, vi faccio mandare una dichiarazione. Io ho detto: no, la dichiarazione non ce ne facciamo niente, piuttosto ti lasciamo delle domande precise e Pisapia ci risponde a queste domande, perché noi abbiamo bisogno il 26 di sapere più o meno qual è l'orientamento della Giunta, perché per ora la Giunta, questo lo sappiamo, non è mai stata investita di una discussione sulla Monti Utility, e quindi diciamo l'unico che ne ha parlato è Tabacci, che ne parla come assessore al bilancio, con tutta una problematica specifica quella al bilancio. Quanto questo impegni la Giunta o meno, naturalmente è facile, finché la Giunta non ne ha discusso, dirci: ma la Giunta non ne ha ancora discusso, quindi noi sappiamo niente. Sto aspettando ancora questa, cioè ancora, siamo andati l'altro ieri, però lui ci aveva assicurato che avremmo avuto le risposte prima di domani mattina. Quando sono venuta via da casa per venire qua, ancora le risposte non c'erano. Questa è la situazione su Milano, quindi noi non possiamo, diciamo, dire altro che le cose che avevamo discusso già, perché noi, come sapete, abbiamo avviato da tempo, insomma, con Pisapia e la sua amministrazione, un percorso, e su questo percorso naturalmente abbiamo avuto una serie di confronti e di assicurazioni sull'acqua, sulle sorti dell'acqua, ma la Monti Utility non si era affrontata. In più, non essendoci coinvolta l'acqua di Milano, è gioco facile in un certo senso all'amministrazione comunale dire: tranquilli, l'acqua rimane pubblica, no? Io non la tocco. E naturalmente non è che a noi non ci interessa, il nostro orientamento è quello di dire scorporate l'acqua come prima cosa, cioè siccome queste società, sia Iren che A2A, hanno dentro l'acqua, loro parlano solo, se guardate il video è stato tutto su energia e rifiuti, anzi quasi tutto su energia, diciamo. I rifiuti c'entravano perché hanno una funzione dal punto di vista dell'energia, ma era più una dentellata energetica. Quindi la Monti Utility si fa sull'energia, no? Però ovviamente queste società hanno dentro l'acqua. Allora, se non riguarda l'acqua, quali sono gli orientamenti? Cosa fanno? Scorporano prima l'acqua e poi uniscono le società, o che altro? Insomma, come tecnicamente mettono fuori l'acqua qui? Per noi questo è il primo obiettivo. Però naturalmente io sui nostri obiettivi e le strategie non vi dico nulla, perché ne discutiamo domattina. Noi abbiamo fatto una riunione provinciale e poi appunto una riunione del comitato milanese, e quindi abbiamo maturato il nostro orientamento, però bisognerà domani confrontarsi con gli altri. Ma in linea tu, se sa niente, perché da noi su questa cosa non si parla. Però ho parlato di noi, di A2A e di Iren. Quello che è venuto fuori è A2A e Iren. No, però c'erano alcuni articoli giornalistici che avevano come una di quelle che poi sarebbe caduto. Però non con la Presidenza centrale, ma cioè, poi ovviamente questo caso avrebbe A2A e Iren. A nord, a sud, a terra. C'è una parte della preoccupazione, cioè, perché una volta che fanno la grande, esagerata, mega, con gli utility, le altre se le mangiano come un bocconcino, sono società. No, ma non solo, ma guarda, se prendete la parte del video dove c'è l'intervista che Mucchetti fa a Fassino e a Tabacci, Tabacci lo dice, cioè, l'obiettivo qual è loro? È di avere, di costruire sul piano dell'energia, come dicevo prima, il secondo polo nazionale in competizione con Enel, no? Quindi cioè lui lo dice chiaramente, deve andare poi con Acea, con Era, cioè si tratta, in questo senso dicevo, soltanto il primo pezzo di un progetto che però non finisce lì naturalmente, quindi è chiaro che si, diciamo, ci andrà dentro un po' di tutto, no? Ed è previsto in un certo senso che si costituisca come secondo polo, almeno nella loro testa. Comunque ad aggregare, poi, ad aggregare, sì, a fondersi con tutte, no, le altre. Non fare una cosa della fusione della linea di Tuttavia a Trieste, che quella invece del Veneto, Padova e verso Giulia anche, no? E l'altra, tanto c'è tanto da percorso, molto tipico, per cui c'eravamo sempre. Poi dopo la cosa, c'era già stata una specie di progetto di fattibilità, insomma, messo giù, poi dopo la cosa era stata accantonata. A chi è, se ha scoppiato? Padova, adesso non mi ricordo del Veneto, quali altre cose, però è anche in Friuli, in parte, e c'è tutti quei progetti energetici con l'ex Jugoslavia, perché poi il bacino di utenza è quello lì, praticamente, l'allargamento, poi addirittura sulla guerra nazionale. Però questa cosa qui poi è stata tipo un anno e mezzo fa, io ho visto un po' di gente che sono riuscita a recuperare, poi dopo la cosa non si sono messi d'accordo, non so com'è, insomma la cosa era caduta lì. Però siccome adesso non la sento mai nominare, sai quelle cose che ma nessuno ne parla, però su fare la. Che però è un'altra, però incredibile che non se mettere l'acqua nella multitinti, questo è il grosso da noi. Sì, ma è chiaro che qui soggetti piccoli, quale sicuramente l'Eco Linear Group non è piccolo, però verrebbero fagocitati da questo, le caselline che mancano, o di qua o di là devono rientrare. Appunto, coloro cominciano a ragionare a camminare. Stanno però, Roberto, chiaro che per ora il progetto è energetico, non è idrico. Quindi non si tratta delle piccole realtà economico-finanziarie, diciamo, c'è dentro l'energia, i rifiuti, il gas, anche a loro si pensa poco, fino a che punto è appetibile per la finanza, oggi lo è, perché sono gli asset comunali che stanno attirando, voglio dire, il signor Gamberale compra SEA, compra Serravalle, compra gli inceneritori, fanno queste operazioni, quindi... Che l'acqua è fuori è un caso o è perché lo rivendichiamo noi? No, magari è l'acqua fuori, nel senso che il primo obiettivo deve essere fuori l'acqua, quindi vuol dire che l'acqua è dentro. La ricamera non un secondo. Teniamo in conto che in molti casi, per esempio, Linear Group da noi non ha l'acqua, ce l'ha OB2, ma OB2 c'è dentro Linear Group, è fuori, ma dobbiamo stare attenti anche a fare un po' dinamica di questi processi. Però in Italia, diciamo, almeno nel nord, è l'energia che trae nei processi di aggregazione, però poi vedendo anche cosa succede in Europa, cioè l'acqua ci può ritornare benissimo, dipende da una serie di valutazioni di mercato che fanno loro alla fine, no? La convenienza nel processo di quanto parte prima e parte dopo, ma le multi utility in genere c'hanno dentro anche l'acqua come altri servizi, per cui non darei un'occhiata più generale al processo, stando meno attenti a questa cosa, se c'è l'acqua, perché l'acqua poi ci può rientrare, nel senso che l'acqua c'è una serie di specificità, no, che... ma comunque l'acqua c'è, dove ha l'acqua sta clomicina, in Italia non c'è Torino, ma c'è perché da noi a due anni ha fatto una società per la gestione dell'acqua, nella holding c'è una controllata che gestisce l'acqua, che questo sia il prodromo a scorpo, che sia solo in questo momento la situazione lì, è tutto da capire, probabilmente siamo anche in una fase fluida e si tengono ancora un po' le mani libere, no? Da qualche parte la tengono fuori, ma in modo che la serie di fine dentro appena vogliono, l'altra la tengono dentro in modo che se vogliono se la mettono fuori. Il loro focus in questo momento è sicuramente l'energia, perché anche per favorisce più dell'acqua i processi di aggregazione in questa fase, diciamo, quando chiediamo appunto fuori l'acqua vuol dire scorporare l'acqua dal multi utility, cioè questo passo avanti da fare adesso quando ancora i giochi non sono chiari, uno, due, praticamente dobbiamo rivendicare in questo momento fino a quando c'è questa finestra nell'articolo 4 che i servizi in funzione del referendum sono fuori, quindi va bene, fate tutte le aggregazioni sull'altro perché sono di mercato, ma se in Italia dobbiamo veramente tirare fuori l'acqua e l'acqua non fa parte di questi giochi dei servizi di rilevanza economica, a maggior ragione la prima cosa che dovete fare in ottemperanza a quell'articolo di legge è che l'acqua non la potete gestire voi molto utility, quindi scorporate probabilmente l'acqua. Adesso per processi ancora non di aggregazione fatto, può darsi che non gli interessa possa fare, successivamente no, perché come dici tu sono parte a tutti gli effetti del processo di aggregazione, una volta che ce l'hai, cioè, assolutamente, o se mantieni dentro l'asset, no, praticamente. Quindi prima per salvaguardare Milano e Torino che ancora sono fuori, due grandi città, praticamente dove ancora l'acqua è un'azienda appunto antino, sotto il controllo dei comuni al 100%, ma poi per porre dei problemi probabilmente anche ad Era e ad Acea, perché anche lì o la tieni fuori adesso o dopo praticamente, cioè dove siamo, i soldi comuni praticamente non la togli più dopo praticamente. Cioè dico, no, anche nei termini finanziari o di parte dell'azienda. Sì, anche se il problema è diverso, perché mi sa l'acqua pesa un po' di più. Cioè, mentre in fondo a 2A potrebbe al limite, anche se magari non lo fa, cioè, andare avanti senza l'acqua. Ah, c'è già la verità. No, lo so, certo, perché, certo. È per quello che il rischio è che poi ci rientri in qualche altro modo. Certo. La domanda è come... cioè, se tu la tiri fuori di là vuol dire che Roma deve decidere che deve fare, anche se ricompra le cose oppure praticamente ci approcciamo rispetto a questi, cioè, buoni problemi nei comuni autofocale del... Siamo solo non l'acqua, diciamo qualcosa anche sul processo in sé. Sì, certo. Sì, certo. Comunque, però la tua priorità sì, però come ti ho detto, cioè, io ragiono anche sul processo in sé, perché poi certe cose poi possono seguire anche per economia e scala. Esatto. No, cioè, sì, ma il processo è un po' più difficile, che se non hai le forze per poterlo, dico, completamente bloccare. Lo puoi ridimensionare praticamente nelle sue, almeno. Cioè, la è scaricata. Il processo in sé noi dobbiamo soprattutto costruire alleanze. Intanto domani viene anche Energia Felice, perché noi abbiamo chiamato Costinelli e giù. Quindi è importante, diciamo, cioè il principio, no? In sé è ovvio che lo sosteniamo anche noi, che è una parte della nostra strategia, però non possiamo farla da soli, quindi lì invece possiamo costruire alleanze con il movimento dell'energia, se c'è qualcosa sui rifiuti, eccetera. Cioè, diciamo, portare avanti quegli elementi che in questo momento nel contesto legislativo attuale ti portano a poter dire, cioè non è impossibile, no? È una questione di volontà, oppure anche di norme di mercato, perché se resta quello, che l'acqua deve star fuori, è chiaro che la multiutility, come dice l'SPA, non può gestire la mista, appunto, no, se non fa senza la gara, oggi non puoi dare degli affidamenti praticamente. Quindi in questo momento, cioè, se l'acqua resta fuori, diciamo che tutte le multiutility dovrebbero scorporare. Questo va nel Veneto, nel piccolo caso, che si porta già l'acqua a riportarla in capo ai comuni, la decisione su come la vogliono gestire, no? E intanto è un piccolo aggregato. Cioè, ce l'hai nel Veneto, ce l'hai a Venezia, ce l'hai appunto anche in altri casi, le piccole multiutility che gestiscono appunto l'acqua, i rifiuti piuttosto che altre cose. E poi il problema è appunto un attimo al polo, praticamente questo momento di riferimento nazionale più consistente. E poi bisogna vedere anche lì, bisogna vedere sempre in quella famosa appunto un attimo documento dei sindacati, i sindacati sono multiutility. Non è che dicono no, colpo accetti non la sono di quelle cose che meritano di essere approfondite, quindi quando lei dice alle altre bisogna capire con chi le fai, cioè praticamente, perché qui interessano i grandi processi, i grandi contratti. Sul protocollo delle aziende c'è un silenzio tombale. Certo. Cioè, no, noi in Lombardia abbiamo fatto qualche confronto, esatto, in Camera del Lavoro, solo perché avevamo parlato con Pisapir del fatto che uno dei passi che noi prevedevamo era l'unificazione delle aziende patrimoniali, che sono 4 nella provincia di Milano, no? Solo questa voce, che noi avevamo chiesto l'unificazione delle aziende, noi avevamo detto unificale, no? Ma una prospettiva di questo genere, ci hanno immediatamente convocato in Camera del Lavoro, perché i lavoratori si erano preoccupati che questo processo di aggregazione, cioè sul piano... Vabbè, questo però dico, comincerei, si vedrà domani che cosa praticamente, può darsi pure che il nazionale decide di fare una campagna, non lo so, dico, vediamo come ci sono. No, anche perché quello capire, che perché onestamente anch'io l'ho seguita poco. Era una legge, in realtà io dal momento che appunto spero che lui venga perlomeno da Brescia, che ci sia qualcuno. Se non ci sono molte altre persone della Lombardia che vengono, anche perché appunto magari sono province che non sono direttamente toccate nell'immediato, avere un minimo di confronto, diciamo appunto sulle ipotesi di strategie, che noi naturalmente possiamo fare sia come comitato provinciale che comitato milanese, però magari se c'è anche un po' un mandato, diciamo, di una discussione nel regionale, è più solido, insomma. Quindi da questo punto io ti do solo l'informazione sulla realtà lombarda, dove A2A ha in capo l'acqua. Praticamente tutti i capoluoghi di provincia del nord Lombardia, partendo da Varese, Como, Sondrio, Bergamo ne è uscita, quindi non la computiamo, ma lo era fino all'altro giorno, Brescia, Monza, una i capoluoghi, quindi i capoluoghi della Lombardia, fatta eccezione del nord Lombardia, fatta eccezione per Bergamo, hanno l'acqua gestita direttamente o tramite consociate da A2A, Aspem, CSM, ASM, Sondrio e quant'altro. Il che vuol dire che è un'operazione che Lombardia avrebbe un certo effetto, perché a volte il capoluogo conta un terzo di più della popolazione, che vuol dire che è come se vuole sconvolgere l'assetto della gestione attuale degli acquedotti in, diciamo, mezza Lombardia, insomma, o più di mezza Lombardia numericamente per i capoluoghi. Nel nord, nel sud invece c'è l'incognita, l'incognita del ragionamento. Però comunque Bergamo controlla le gestionali che hanno dentro la gestione dell'acqua, diciamo una di Crema, cioè delle due città più grandi comunque del Lombardia. Se AM Gestioni e SRP Gestioni di Crema sono oggi sottoposte a direzione e controllo di mio gruppo, da un anno a questa parte. Cioè, le due patrimoniali hanno ceduto le gestionali, sono sotto il controllo diretto di mia gruppa adesso. Quindi no, ma l'acqua mettiamo in discussione di mia gruppa. Quindi se il mio gruppo dovesse rientrare in questa roba qua, c'è l'acqua di Crema di Cremona comunque. Certo. E poi fa cazzotti comunque con l'idea del soggetto unico, cioè tutta sta roba poi alla fine va a confliggere comunque anche rispetto a un soggetto unico provinciale che vuoi creare, no? Anche volendolo fare. Assolutamente. Perché non è capito, cioè soggetto unico provinciale per quello che come qualcuno ha sottolineato, lo strumento del decreto Ronchi non serviva per consolidare che in ogni provincia ci fosse un gestore possibilmente privato, era mettere in discussione che ci fosse una gestione pubblica in Italia. Se tu la fai attraverso gli affidamenti a gara provincia per provincia o li fai attraverso le aggregazioni societarie, ai potentati economici ne frega relativamente, è importante avere in azienda la gestione a livello di ATO o a livello macro regionale, che me ne frega, anzi più a livello esteso, tant'è che molte regioni, l'Emilia Romagna e la Toscana ragionano nel ATO unico regionale, che vuol dire che superano anche gli steccati verso cui noi stiamo ragionando, no? La città, la metropolitana e quant'altro. Lo scenario è questo qui. Se è perché tu in divenire le decisioni su domani? Le decisioni sono in divenire, io le uniche cose che vi posso appunto anticipare sono quelle che ho detto, cioè che noi ci orientavamo appunto sulla strategia che in primis chiede fuori l'acqua dalla multi utility dovunque sia, e quindi poi andare a verificare di volta in volta quali sono i metodi concreti con cui pensano di poterlo fare. E in secundis, no, quello che dicevi tu, cioè l'attacco alla multi-utility più in generale come risposta, no, al problema dei servizi pubblici locali, richiamandosi per quanto riguarda i rifiuti, perché lì è possibile al referendum, però purtroppo non è possibile sull'energia, no? E però sostenendolo comunque in generale, però su questo proponendo di costruire delle alleanze con altri movimenti. Questi erano poi i due punti che abbiamo discusso. Vi do indicazioni logistiche. Se qualcuno non conosce la sede di Punto Rosso e arriva col metro alla fermata Garibaldi, deve cercare il binario 20. E sul lato destro del binario 20 c'è l'uscita che è proprio in faccia a Punto Rosso. Nel primo quesito la città, secondo è quello sulla remunerazione capitale. Cioè, il primo praticamente diceva che i trasporti locali e praticamente servizi rifiuti, acqua, rifiuti e trasporti locali, praticamente questo è il nostro articolo 20, fuori dall'articolo 23. Sì. Sì, cioè in realtà ci sono tutti i servizi, però il problema è che esclusione c'erano le normative. Energia, sì, gas, no, e gas, e farmacie hanno. Servizi, qualitativamente l'articolo 23. Esclusi i servizi su cui ci sono altre norme di settore. Energia, gas, era che si quando se non c'era il decreto Bersani. C'è cosa da pensare, non possiamo intervenire. No, campagna obbedienza civile solo nell'ottica di capire lo stato dell'arte e se serve un coordinamento regionale oppure se a livello provinciale bene o male nelle difficoltà, perché io immagino la difficoltà già nel recuperare i documenti, è già partita o non è partita la campagna. Facciamo un giro velocissimo. Lecco. Allora, innanzitutto i dati, abbiamo ricevuto la comunicazione dei dati che servono per fare i conteggi dall'ATO. C'è la remunerazione? Sì, c'è, ed è pari al 7,95 per il 2011 e al 9,02 per il 2012. Ve l'hanno comunicato loro? No. Oppure l'avete calcolato? L'abbiamo calcolato. Cioè loro vi hanno dato i volumi? I volumi, la remunerazione del capitale, i volumi. E la remunerazione del capitale? L'avete calcolato? No, ce l'hanno comunicata. Ci hanno dato la remunerazione del capitale. Nello specifico però non lo guardiamo i calcoli. No, mi interessava di capire, i dati sono stati recuperati, c'è o meno la remunerazione, perché se non c'è la remunerazione non stiamo parlando di niente, se state partendo con la campagna. Tutto qua. Allora, abbiamo dunque una cosa, ho visto una cosa che volevo chiedere agli altri comitati, se qualcuno ha mandato le lettere di diffida, ha già mandato le lettere di diffida all'ATO sul fatto che ci sia stato il referendum e che quindi non bisogna applicare, perché io ho fatto un po' una scaletta della campagna, sì. No? La prima sarebbe la lettera di diffida all'ATO dicendo c'è stato il referendum, non devi più applicarmi la remunerazione del capitale in bolletta. La seconda cosa, vabbè, informare la cittadinanza e prendere queste reclami dove sono sottoscritti dai cittadini, dove c'è il conteggio, che tu puoi spedire. Tu come comitato spedisci o lui il cittadino? Allora, o lo fa il cittadino, RR, che la comandata ricevuta in ritorno, oppure tu li raccogli e li porti al protocollo insieme, ognuno una ricevuta. Ok. Dopodiché, allora, questo sempre. Contemporaneamente ho chiesto a un legale, però non ho ricevuto risposta, cosa succede, quali sono i risvolti e se eventualmente fosse disponibile a tutelare quelli che ricevono qualche cosa, cioè quelli che si applicano la riduzione e ricevono qualche contestazione. Adesso non ho ancora ricevuto la risposta, spero che. Il reclamo può essere fatto sulla lettera che c'è del comitato, quella sul sito, oppure chiedere all'ATO se hanno una lettera loro di reclamo. Ecco, noi siamo in questa fase, il 29 ci riuniamo, vediamo se si può. Ecco, il grosso problema che io vedo è per l'ECO potrebbe esserci il Movimento Consumatori che ci può dare forse un ausilio, forse, però per la provincia, per i territori, organizzare dei banchetti, posto che Feder Consumatori e altri non, se non indicare, insomma, non danno supporto. Per cui vedere se è possibile trovare o un gruppo di volontari che lo fa, però a quel punto anche dove, no? Perché sul territorio se non hai supporto dove lo fai? Non puoi far per strada. Ecco. E quindi ci sono un po' di queste cose da vedere. Basta, non so se c'è da aggiungere altro. Ecco, chiedevo se gli altri comitati hanno, perché ecco, la lettera di diffida, l'unica cosa, c'era scritto firmata da membri del comitato che pagano bollette nel territorio, no? Però io dico comitato, firmata magari dai vari componenti, ma comunque se i comitati l'hanno mandata già. Allora, noi a Milano abbiamo mandato una lettera che però non abbiamo concepito come lettera di diffida, ma piuttosto come lettera di richiesta di informazioni su che misure intendono prendere. Questo riguarda la città di Milano, il lato città di Milano, perché si è verificato che invece l'Ato Provincia di Milano non ha mai applicato il metodo normalizzato, quindi invece l'Ato Città di Milano lo ha applicato nel 2010, non è il 7%, ma pare circa la metà, e peraltro non l'ha mai utilizzato per distribuire utili, ma per pagare i ratei dei mutui. Allora, noi adesso abbiamo naturalmente la grande facilitazione data dal fatto che Giancarlo è diventato consigliere dell'Ato Città di Milano, quindi non abbiamo problemi di informazione, no? Per cui per esempio loro hanno fatto l'altro ieri, giovedì, una riunione dell'Ato di Milano, e Giancarlo poi la sera mi ha telefonato e mi ha detto che cosa avevano, si erano detti sulla nostra lettera. Hanno acquisito la nostra lettera, hanno fatto partire, diciamo, la valutazione della necessità di revisione del piano tariffario per rispondere al problema della remunerazione, perché noi comunque gli chiedevamo che quello va tolto anche se non lo usano, no? Certo. Oppure invece ci dimostrano per cosa lo usano e quindi si può applicare senza più farlo figurare come remunerazione capitale, se gli usi, no? La tariffa di Milano è molto bassa. E però loro dicono che l'Ato di Milano l'altro giorno ha detto che i tempi non saranno brevi, perché devono per forza, per studiare il piano tariffario eccetera, devono per forza rivolgersi a un consulente esterno. Già il piano tariffario del 2010 è stato fatto così, quindi presuppone una spesa, quindi ci vuole un pochino più di tempo. Comunque l'Ato giovedì si è impegnato ad affrontare la revisione e ha confermato che non ci sono mai stati utili né dividendi per il comune. Quindi questa è, però noi non l'abbiamo concepita, quindi secondo la campagna, secondo la forma specifica che gli dà la campagna. Ok. Prima di concludere vi posso dire che in provincia di Varese ci sono proprio al punto zero della campagna, perché abbiamo proprio scientemente deciso di iniziarla con un filino di ritardo, ma di concentrarci molto sulla questione di cui al punto 1 dell'ordine del giorno di oggi. Sì. Per cui abbiamo, ve lo preannuncio a mo' di così, toccata e fuga prima di andare, ma poi faremo circolare in rete, facciamo per l'appunto questi 4 appuntamenti di approfondimento sulla questione della gestione tramite ente di diritto pubblico nei 4 centri maggiori della provincia, che poi sono quelli che esprimono un po', no? Tutta la partita, oltre ai piccoli comuni, come vorremmo che fosse valorizzato. E quindi no, abbiamo deciso di posticipare perlomeno ad aprile, insomma, a fine marzo, questa cosa, quando sarà finita. Di sicuro, non essendo stato approvato il piano, cioè noi siamo senza, è un lavoro abbastanza gigantesco, perché devi andare in ogni località da andare a chiedere. Qualche sindaco ha già fatto sapere che non esiste remunerazione in qualche sindaco, in qualche singolo comune, ma è un lavoro abbastanza ciclopico, vedremo come fare. Mi sembra la stessa cosa con noi, no? Con la situazione del 2 marzo, perché come città i dati non ce li abbiamo, ci stiamo chiedendo, e i sottocomitati vediamo con le varie aziende cosa hanno trovato. Cioè, Como penso ci siano una ventina, se non di più, i gestori, se non addirittura molti comuni con la gestione dell'economia. No, sono così. Ci sono 80 piccoli comuni con la gestione dell'economia, su 141 province. Come ci sono 164 comuni, penso 20 gestori societari, il resto è l'economia, 140 in economia. Brescia. Noi abbiamo il problema che abbiamo 3 gestori e 3 tariffe. Esatto. Sì. Con un problema, abbiamo raccolto dal piano d'ambito i dati e la numerazione del potere emesso c'è, perché usiamo la tariffa normalizzata. Però il problema grosso è riuscire a quantificarla, perché il piano d'ambito configurava degli assessori territoriali che non sono quelli reali, cioè i comuni che erano prefigurati al piano d'ambito non sono gli stessi, per cui c'è un problema di capire se gli investimenti di un'area in realtà sono ancora in quell'area o sono da un'altra parte, perché quel processo non è mai andato a regime, ci sono state le soluzioni intermedie, ci sono dei pezzi anche consistenti fuori, tipo tutta la Vacca Monica doveva stare con un gestore, allora gli investimenti sono computati considerando la Vacca Monica o no? Abbiamo scelto però di non fare ancora la richiesta ufficiale all'ATO perché vogliamo prima raccogliere i dati in maniera informale, stiamo tentando tramite consiglieri, sindacati e così via, avere chiara la situazione per capire anche come impostare la campagna, perché da una parte già la richiesta di avere pubblica articolazione a tariffa è già un primo atto, che un primo pezzo di campagna che vogliamo mettere in campo, cioè non solo ce lo date noi come comitato, ma qualsiasi cittadino deve avere un posto dove va su un sito e vede come è fatta la sua tariffa, o glielo mettono pure in bolletta magari, certo, con tutte le voci, certo. Perché l'altro aspetto che avevamo deciso un po' di affrontare è quello, come tutti sapete, dopo il referendum i gestori hanno dichiarato che avrebbero sospeso gli investimenti perché era... Da fonti sindacali a Brescia ci risulta che questo l'abbiano effettivamente fatto, no? Per cui però questo dovrebbe in teoria avere delle ripercussioni sull'abbassamento della tariffa, successivo non avendo più investimenti da terreno. Volevamo capire anche il contesto. La lettera di Pida non l'abbiamo ancora mandata perché per noi era il passo successivo, cioè richiesta di pubblicità della cosa. Bene, adesso ci avete detto ufficialmente che serve una rinnovazione del capitale investito, vi mandiamo la di Pida. Sul resto della campagna, prima vogliamo capire quant'è appunto... E sarà diverso da quanto abbiamo capito da tariffa a tariffa, il numero percentuale sta, dovrebbe stare fra 7, 9, 10, più o meno come range. Dopodiché, però, prima di fare i reclami vogliamo anche spiegare alle persone quale sarà tutto il percorso. E qui c'è un punto, cioè la campagna dal punto di vista delle conseguenze legali per le persone che magari non versano quella quota non è chiarissima su cose queste, per cui abbiamo chiesto un incontro in prima di tutto con Federico Consumatori perché ci sembrava che un'associazione, ci sono anche c'è anche un avvocato vicino al comitato che al limite farebbe, però in parte vuole anche essere pagato, bisogna capire come, e sarebbe uno capire se si appoggia in questa cosa, capire meglio anche dal punto di vista nostro, perché prima di mandare la gente allo sparaglio io voglio dirgli tutto quello che rischiano, perché uno mi può dire no, io vado, non me ne frega niente se vengo qua a pignorare la macchina, altri dicono no. Cioè, però questo non l'hai detto magari. Certo. No, non posso. No, ma non esiste. Per cui, devi comunque dirgli. Cioè, quando poi arriverà appunto l'ingiunzione, avere anche un soggetto che aiuta negli atti successivi e così via. C'è un problema presso infede consumatori, per cui devo risolversi i problemi interni prima di avere un interlocutore, penso che a breve risolveremo questo pezzo. L'impressione nostra è che non ci sia in questo momento un grande spazio per campagne di questo tipo, cioè non c'è, noi abbiamo cominciato a lanciare la cosa, faremo la campagna di autoriduzione, ci stiamo cazzando per, ma per ora abbiamo avuto una risposta di uno che ci ha scritto dicendo mi interesserebbe fare la campagna di Brescia, poi anche tramite Radio Onda Adulto, che è un emittente diciamo che investe in un'area diciamo più a sinistra, la cosa è stata più volte lanciata, ma per ora abbiamo pochi feedback, per cui bisognerà capire anche lì come articoleremo la campagna, no? Perché ovviamente ci vorrebbe anche un minimo di numero critico prima di riuscire a capire la cosa. Poi il condominio. Prima di fare di nuovo il giro, Tiziana e poi Fabrizio hanno accennato alla tutela legale, verifiche. C'è un gruppo di lavoro in costituzione a livello nazionale che deve stabilire i criteri di ripartizione delle quote all'interno del fondo del forum sulle vertenze territoriali. Quasi tutte, no, non so se quasi tutte le regioni, mi facevi vedere prima il report, hanno espresso un nominativo di una persona che fa parte di questo gruppo che credo lavorerà a livello di mailing, che deve appunto stabilire i criteri di ripartizione delle quote per le vertenze territoriali. Se qualcuno dalla Lombardia, magari anche solo una persona, due, non lo so, ne vuole entrare a far parte scrivendosi alla mail, credo che possa essere opportuno del tipo a Brescia partiamo la campagna, ma abbiamo come assoluta necessità il supporto legale, quindi andiamo a tener conto nella ripartizione delle quote. Vedevo Tiziana come persona molto coinvolta, attenta a questi aspetti, oppure se ci sono altre candidature. Comunque nel report che è arrivato del coordinamento, non so se avete visto tra le c'era scritto che per le anche il ricorso al TAR, sì, il nazionale fa fronte delle spese vive, quindi immagino bolli o così, sì, ma gli avvocati sono a carico dei comitati e quindi su 6.000, penso che su, non so se parlava di 6.000 euro un ricorso al TAR, se devi pagare anche l'avvocato, sì, sì, ecco, 6.000 euro, non so quanto, metti che sarà 500 euro le spese vive, ecco, metti, vai alla grande, dici 1.000, però il resto vuol dire che se li carica il comitato. Ma loro dicono che ti fai con l'amico, no? No, beh, ma questo per le assicuratori, se volete vi riporto, diciamo, quello che è stato, perché arriva. No, la questione posta era solo... Non c'è nessuno, non ho già interesse in quel gruppo lì, assolutamente. Però vi riporto il perché, il come si era arrivati a questa decisione. No, però non era posto il tema, sì, ma era la campagna di obbedienza civile e all'interno di questo, visto che si è parlato di... Cioè, è assolutamente importante il porto legale, qua c'è il gruppo che ne parla. No, se non è, però senza un lombardo non avremo neanche la forza per. Ma io devo affrontare con la storia del bilancio. Ma è abbastanza legale. Hai letto il bilancio, non me lo sono manco letto. Ci puoi dire di più? Allora, noi siamo praticamente ancora a zero formalmente, anche se abbiamo già fatto 3 incontri a livello territoriale, diciamo supportati dalla CGIL, perché abbiamo fatto, però purtroppo in questi 3 incontri territoriali ci siamo trovati con 3 persone, quindi abbiamo cominciato per capire, diciamo, che tipo di sensibilizzazione ci poteva essere. Adesso, e in più, abbiamo fatto un incontro con Federconsumatori e Federconsumatori ha detto che loro non hanno nessuna disponibilità di risorse da darci, perché insomma, sono poveri e si devono occupare di altro. La settimana prossima, però, per altri motivi, io mi devo incontrare con quelli dell'ARCI e dell'ACLI e ho in mente di proporgli di, diciamo così, mobilità. Quelli dell'ARCI, anche al telefono l'ho già sentita la Presidente, dice sì, ma ci siamo, oltre al fatto che hanno sportelli possono mettere magari qualcuno anche a dare risposta allo sportello. Però io la vedo, diciamo, come campagna, più che la campagna concreta di riduzione della tariffa, proprio sono limitata alla campagna di sensibilizzazione, nel senso che scrivere le lettere di reclamo, anche lì, noi, anche solo noi del comitato, 7, 8, 10 che mandano la lettera di reclamo, la facciamo insomma, prossimamente, nelle prossime 2 settimane mettiamo in piedi questa cosa qua. Non abbiamo ancora chiesto nemmeno formalmente i dati sul consumo e sugli investimenti, perché c'era proprio questo passaggio qui dal lato alla provincia, quindi io ho sentito quello del lato, dicevo, scusa, chiedilo alla provincia. Alla provincia l'abbiamo chiesto alla commissione quando siamo andati, dice, ah sì, bravi, chiedetelo al lato, perché ci interessano queste cose, quelli della commissione provinciale. Vabbè, per dire. C'è una situazione abbastanza confusa, non è detto che il lato ora diventato ufficio d'ambito li abbia i dati sui volumi fatturati e sugli investimenti, perché loro hanno bisogno di averli dalle singole aziende che finora avevano funzionato come erogatori, e c'è un po' di guerra fra, diciamo, è il mio la sua. Comunque, dico, noi partiamo nei prossimi 10 giorni con le prime lettere di reclamo, dopodiché siccome le bollette arrivano ogni 6 mesi, nel semestre successivo ce la facciamo anche una autoriduzione dei 7-8, adesso indipendentemente dal supporto legale, perché poi a me, cioè, se vengono a tagliarmi l'acqua poi vai a tagliarmi la gola, sicuro poi. per dire, è una provincia la nostra dove basta fare il gesto dimostrativo e la cosa ha una ricaduta, diciamo, abbastanza efficace, quindi non stiamo puntando a raccogliere le 1.000 adesioni, perché non ci riusciremmo, ma semplicemente ad arrivare ad attivare il meccanismo e fare l'azione dimostrativa con, ripeto, le poche. Okay. Fausto ci sta richiamando, abbiamo ancora 5 minuti. Ma il quadro breve, anche non siamo partiti. È già 2 secondi, Bergamo. Stiamo valutando, questa è la cosa che ha suscitato meno interesse in questi 6 anni che io mi occupo dell'acqua. Uno, perché dei soldi a Bergamo non ne frega niente nessuno. Due, perché tutti dicono sì, però siccome è sempre stato reinvestito nell'azienda, per cui insomma è da valutare. Ciò nonostante, abbiamo messo in campo adesso un paio di incontri, vogliamo comunque fare un paio di incontri, adesso sentiamo il Movimento Consumatori e vi dicevo la Presidente delle ACT, Marzanzo, assento, per dare comunque un quadro e per essere pronti per dare un quadro completo e informativo ai cittadini. Io ho fatto il calcolo per quanto riguarda Uniap con i dati che sono tutti presenti sul sito, fino anche i bilanci, mi risulta il 9,3. Sono i miei conti, quindi potrebbero essere suscettibili. Poi ci sono da fare un po' di verifiche. Vedremo, okay. Noi puntiamo di più in questo momento a due cose. A ripubblicizzazione, che è quello su cui vogliamo fare la campagna che è più interessante in questo momento, perché è quel rito che va più salvaguardato, è il primo, il secondo lo vediamo, è interessante, ma più è molto politica che economica in sé, quindi il discorso della ripubblicizzazione e di poter interagire con l'ufficio d'ANPI e anche con i sindaci, su quella partecipazione dei sindaci, cioè ci interessa di più, per quegli sforzi che abbiamo, interessa di più ai comitati il discorso del modello gestionale fondamentalmente. Ciò detto, cercheremo comunque di fare questa cosa. Voglio dire una cosa, posso rubare un minuto per una soft topic? Se prima Cremona, grazie. E Lodi, dai. Allora, velocissimo, sì, l'ho preso. Abbiamo i dati, ma ci hanno assicurato che non c'è remunerazione del capitale. Ci siamo riproposti di fare il calcolo noi per fare un controllo. Gli ho rigirato la palla ad Antonio Bagnaschi, che era quello che l'assessore della precedente, mi ha detto sì lo facciamo, te lo faccio, non ha avuto tempo. Comunque appena ho qualche cosa vi faccio sapere. Comunque a quanto dicono non c'è remunerazione a Lodi. Ok. Scusate che so. Ciao detto. Non siamo partiti come compagni. Immaginiamo perché. Perché abbiamo già fatto i fatti di non fare altro. Quindi così. Condivido le vostre preoccupazioni. Posso dire spazio. Dopodiché, per carità, per noi penso che sia anche una cosa che fare pressione, perché comunque rispetto a una prospettiva di andare a gara, rispetto a un gestore privato che potrebbe entrare, sicuramente dire guardate qua noi facciamo lo sciopero della bolletta o comunque facciamo la riduzione o quello che è, può fare la deterrente, magari qualcuno potrebbe essere anche uno strumento per dire che conviene di meno venire a partecipare alla gara di carriera, che arrivi comunque. Quindi sicuramente sarà una cosa che cercheremo di aiutare comunque. Noi a livello non abbiamo recuperato dati di niente, però ci era arrivato lo schermo con i calcoli che avevamo fatto con il gruppo romano. E risulterebbe che per il 2011 siamo intorno al 12,60 qualcosa di remunerazione capitale. Questo è il momento della società. Quindi è una strada forte. Certo, se poi uno va con quella data, prendendo quella data lì, va a fare il conto sulla tua bolletta che ti arriva, è un sogno. Se io ho 20 euro di bolletta d'acqua, sono soldi anche quando consumano meno. C'è anche il problema delle utenze fondamentali. Quindi a livello finanziario è una cosa che fa ridere, che arrivano 200 euro di bolletta di gas, adesso che siamo poi nella bolletta invernale, da 200 euro in una borsa sola, ti arrivano 20 euro. No, tra l'altro Cremona, essendo un servizio multi-utility, il nostro, noi abbiamo un bollettino solo da pagare per tutti i servizi. Se invece tu vuoi scorporare l'acqua, alla fine devi pagare 3 bollettini verdi, devi fare quello della bolletta dell'acqua, quello del gas e sono due annunce, quindi adesso mi aspetto più di spese postali che l'effettivo. Allora, secondo me sono perplessità che se mettiamo in rete aiutano anche a liberarsi dalla campagna. Questo vale però per chi non ha città, per le altre dove i gestori sono comunque diversi e quindi l'acqua ha una sua bolletta specifica, la bolletta che è una, la pagata. No, aspetta, di non fare le tariffe sono mediamente un po'. Diciamo, le nostre tariffe sono ancora molto basse. I 3 reali su cui ragioni sono... Sì, però sicuramente poi a volte dici ma se tutto questo impegno anche per fare la campagna per pochi, perché su 50 euro il 7% per dire sì. Viene proprio cifre e poi c'è da dire come questa cosa l'abbiamo utilizzata più che altro per cercare di demolire le modifiche del nuovo piano d'ambito che ancora invece prevedono la rimozione di capitale invertito, quindi no, quella forma qui l'abbiamo abrogata, quindi quel piano d'ambito è così, cioè noi la utilizziamo molto su questa cosa, quindi quel piede clini ha detto esattamente la stessa cosa, c'è la lettera che gira, ok, e quindi cerchiamo di utilizzarla. Poi valuteremo, insomma. Ok, Mantova, poi Fausto ha fatto girare la lettera di Clini e il documento CGL, giusto? Okay. L'operazione che abbiamo fatto partire noi è un'informazione alla cittadinanza, abbiamo visto che rispetto a tutte le cose che stavamo dicendo, campagna di ripubblicizzazione e tariffa, sono stati lì ad ascoltarci sulla tariffa e quindi hanno rimesso veramente attenzione, nonostante il banchetto che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto con un freddo della Madonna, ma abbiamo imparato da quelli di Cremona e quindi abbiamo tenuto giù. Invece l'operazione che stiamo facendo è quella di approfondire il discorso sui rischi possibili. L'abbiamo fatta, sto facendo un'ulteriore verifica con Severo, perché Severo ci aveva lanciato una serie di campanelli d'allarme sul controllate che nell'adeguamento rispetto al piano tariffario originario siano state rispettate le condizioni di legge. Adesso alcune cose gliele ho passate e gliele ho passate perché io ho il piano tariffario che è tornato su 20 anni, c'è la remunerazione, si legge perché nel piano tariffario si vede, attualmente dovremmo essere tra il 14 e il 15%, però noi abbiamo 5 gestori con 6 articolazioni tariffarie diverse e quindi stavo cercando di capire se comunque se io ragiono su un piano d'ambito provinciale e un unico piano tariffario io posso applicare la stessa percentuale, ma non per i cittadini perché non gliene frega niente, ma perché io poi devo andare a parlare con gli amministratori quando chiedo toglietemi questa parte. Campanello d'allarme su quelli che vi dicono che non hanno rincredizzato perché non hanno fatto profitto con quel 7%. Palle, lo fanno. E lo fanno perché in pratica utilizzano quel 7% al posto del capitale investito. Nell'operazione è una fregatura perché l'abbiamo verificato, in alcuni casi dove l'abbiamo visto e l'abbiamo guardato insieme a qualche altra persona, se il capitale è 100 dal piano d'ambito, dal piano tariffario e la remunerazione è indicata 7, se ti vengono a dire che quel 7 è stato reinvestito e hanno fatto le stesse cose che erano previste nel piano d'ambito, vuol dire che loro non ne hanno spesi 100, ne hanno spesi 100 meno 7, quindi alla fine vuol dire che il capitale non l'hanno tirato fuori. E siccome questa cosa è una delle condizioni in base del piano tariffario e del metodo normalizzato, siamo nelle condizioni di attaccare la scelta. Una delle cose più furbe, secondo me, che è uscita nelle proposte che sono state fatte nell'ambito di questo comitato, è invece un'altra come forzatura. Siccome voi amministrazioni, anzi, voi aziende multiutili, non siete trasparenti, io il mio gas e la mia energia elettrica non la compro più da te, ma la vado a comprare da un'altra parte. Queste lettere stanno cominciando a girare, adesso vedremo se riusciamo a metterle in rete in un sito particolare per la disponibilità dei cittadini, perché fa molta più paura alle aziende non rinunciare ai 5 euro della bolletta, ma rinunciare alle utenze di gas, perché di fronte alla lettera, che è una minaccia di diminuire dei soldi, la lettera della, del distacco della, della rinuncia dell'utente del gas ha un peso specifico molto più alto. Se hai quindi questa cosa stiamo cercando di farla, perché ci siamo incontrati, abbiamo verificato, purtroppo non essendoci aiuto, l'unica cosa che siamo riusciti ad organizzare tra di noi è che se effettivamente abbiamo la disponibilità individuale in alcune persone, ci sono alcuni circoli arci che ci danno la disponibilità qualche ora alla settimana per fare l'ufficio. Ma quello che tu sei andata a vedere il piano, perché allora io mi sono fidata dei dati che mi hanno dato, perché poi dal piano dato, in effetti l'ho visto anche sul sito, però non sono andata a vedere se nel bilancio e nel piano dato erano bilanci, perché sono dati che loro hanno pubblicato anche al forum ufficialmente, a me ufficialmente, non è che... No, no, ma il piano dato, il piano tariffario che nasce dal piano dato è l'unico valido, perché quando tu fai l'intervento tariffario dell'operazione che ho chiesto se gli dà una mano se vero cadere, è l'unico che dà l'autorizzazione poi a quelli che approvano la tariffa di quell'anno di verificarlo sulla base della conformità di quello che il piano d'ambito aveva stabilito. Cioè in pratica tu hai il piano d'ambito che dice all'ente gestore come si deve muovere, quanto ne deve investire e come li deve investire, e sono spalmati nell'arco degli anni del contratto. Su quella base ogni tre anni c'è l'adeguamento per la verifica, però anno per anno quando vanno a dire ok la tariffa va applicata, la tariffa la applichi se sei in adesione al piano d'arco, cioè tu sei sindaco, esatto, non solo questo, sennò sono attaccabili e sono denunciabili. Siccome questa cosa è, invece di dover stare lì a fare tutte le verifiche sui bilanci, la verifica la facciamo perché così dall'altra parte verifichiamo se avevano ragione o meno. Ma l'altra cosa da fare è quella di prendere il piano tariffario vero e proprio e partire da lì. Quando ci sono tariffe diversificate è un problema. Allora, per la faccenda giuridica, tre cose. Sono andati a fondo quelli di Arezzo e loro hanno le idee ben chiare, e Lucio Belloni ha dato tutta la sua disponibilità a tutti quelli del comitato, dei vari comitati, di chiarire questi passaggi. Non è possibile l'ingiunzione, perché le aziende sono aziende private. Tipo privatistico, quindi per l'azienda privatistica non ci può essere iscrizione a ruolo, non ci può essere taglio, perché comunque tu la bolletta l'hai pagata, giuridicamente riconosciuto, non può esserci nient'altro se non la richiesta dell'azienda di pagare la cifra mancante. E su quello giuridicamente non c'è la possibilità di intervenire se non attraverso un'azione dell'azienda che potrebbe portarti davanti al giudice di pace per obbligarti a farti pagare. Ma la morosità non scatta? La morosità non scatta, scatta solo... No, no, è previsto, c'è citato l'accidente del consumatore... No, ma perché sul vademecum che mettono il sentire legale, e a parte quello c'è scritto ingiunzione, queste robe qua, quello che lo fa specie. L'ingiunzione a pagamento è l'invito, noi confondiamo giuridicamente l'ingiunzione a pagamento dell'amministrazione pubblica all'ingiunzione di pagamento che viene da una ditta privata, noi abbiamo tutte SPA e SRL, non c'è il sindaco che ti ingiunge, solo ed esclusivamente se l'amministrazione pubblica può o iscriverti al ruolo, recupero crediti, la stessa cosa, ma è vero, il recupero crediti dell'azienda non lo può fare, sì, come no, lo deve fare quando era l'acquedotto pugliese, è un atto obbligato, perché tu sei un amministratore di un'azienda, ti devo tutelare di 30 soci rispetto alla presenza d'utile, se no dice se non o come non ti fai pagare la fattura, la capisci? Allora rispetto alle azioni che comunque ha fatto Arezzo, per cui hanno già preso ragione alla grande, questa situazione in primis porta il discorso di sperequazione, l'azione non è sproporzionata al 5 euro, 10 euro va bene, però quando sei 40.000 euro come appunto alcuni insomma, non certo. Beh, 40.000 euro non si può pure da raggiungere. No, ma scusa, sono anche milioni a sé agli altri, in alcuni contesti cioè, l'azienda si perde se tutti facessero questo. Cioè, gli utili... sì, però a me non puoi venire a tagliare l'acqua perché a me non ti ho pagato 5 euro. Vabbè, 5 euro magari non te la faccio. Allora, l'azienda dovrebbe costretta a fare un per uno, e siccome stiamo parlando... Per ogni... No, quindi c'è 5 euro di costo di produzione, però per iniziare a farlo con i grossi, da 40 euro in su lo devo fare, insomma, che non posso permettermi di perdere. Vabbè, ma non penso approfondimento. No, il problema invece maggiore è purtroppo quello che la maggior parte di noi non va a pagare il bollettino, e quindi dovrei... Cioè l'addebito agganciato dal capo alto di quello ci sono prima condominiali, che per noi sono... Però le utenze condominiali, io ho visto che tra i condomini di Mantova c'è stata una richiesta invece di... Sì, della segnera. Conoscete una regola, ma è... I nuovi condomini non possono avere il contatore dell'acqua singolo. Cioè, esserci un contatore dell'acqua condominiale, tutti all'acqua, quindi il problema doppio, perché chi è in questa situazione... No, chi è in quella situazione no, deve liberare quella signora del condominio. No, ma dove l'hanno fatto l'hanno fatto dire sì, a Roma sono quasi tutti i condominiali. A Milano sono tutti i condominiali. Davvero, ce la fanno passare. Giusto, noi siamo tra il 14 e il 15% attualmente sulla base del piano tariffario. Il mio problema più grosso è vedere l'articolazione sulle sei tariffe di cassa. Ok, ci aggiorniamo con... Vai, posso dire una cosa? Quanti minuti, Paolo? Un secondo. Allora, allora a Marsiglia, al Fave, noi faremo il seminario sulle acque minerali. Noi, io l'abbiamo proposto e l'Elisabetta, cioè nel senso al comitato di Interno? Sì, per la come specifica San Pellegrino, e il comitato Umbro, come l'Elisabetta e il comitato Umbro portano stessa. Abbiamo proposto il seminario contro le acque minerali, ce l'hanno accolto e quindi lo faremo. Stiamo mettendo in piedi un po' di informazioni perché se ne parla molto poco, ma è aberrante che la gente continui a utilizzare acqua minerale, lo sappiamo tutti. Allora magari vi mando gentilmente in mailing list, se mi fate la cortesia di mandare una richiesta alla responsabile delle risorse idriche della provincia, dove ci sono delle captazioni, perché adesso a febbraio sono usciti i dati dell'anno precedente, io vi invio la richiesta se mi evitate di farlo a tutte le province. Dove c'è una concessione per l'impossibile, guardate chi è sul vostro sito, chi è responsabile delle risorse idriche, vi fate la richiesta che vi mando, così è l'ufficio della provincia. E poi ci